può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera, 18:08 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, saremo insieme fino alle 20:30, 800 24 0024, cominciate subito a prenotare il vostro intervento in diretta per commentare i fatti di giornata dell'attualità. Stasera vogliamo premiare anche la vostra fantasia, aiutateci a dare un nome all'orso attualmente nominato M25 che sta in Valtellina e che qualche giorno fa ha sbranato quattro asini che erano usciti fuori dalla zona del pascolo, ma che la regione Lombardia ha deciso di salvaguardare, di tutelare, di non dargli la caccia, come sta avvenendo invece con l'orso Danizza, l'orsa, in Trentino, tra le proteste degli animalisti. Aiutateci a trovare un nome, perché non si può sentire che si chiami così M25. 800 24 00 24. Perché a loro sì, ai Rolling Stones sì, al Movimento 5 Stelle no? Perché non concedere al Movimento di Beppe Grillo per il 10, 11 e 12 ottobre il Circo Massimo per fare la manifestazione Italia a 5 Stelle? È quello che si stanno domandando tutti gli attivisti, gli elettori, insomma, del Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo, perché alla domanda di poter avere il Circo Massimo per fare questa festa di tre giorni del Movimento è stato risposto dal Comune e dalla sovrintendenza di Roma, non sappiamo esattamente, la manifestazione è troppo importante, l'allestimento troppo grande per quest'area. Però giustamente Beppe Grillo sul suo blog scrive: beh, ma i Rolling Stones sì, 70.000 persone, altre manifestazioni sì, in passato ci sono state anche più grandi, basta ricordarsi quella famosa del 2002, la CGL, siamo 3 milioni in piazza, adesso ai Pentastellati insomma non viene concessa questa piazza importante del Circo Massimo. Gli italiani e l'inglese, prosegue questa il racconto che andiamo facendo in queste sere. Ieri sera il preside dell'Istituto Parini di Milano ci ha confermato che non debutterà a settembre l'insegnamento di una materia qualunque, come storia dell'arte o anche la matematica, all'ultimo anno del liceo in inglese, in lingua inglese, cosa prevista dalla riforma Gelmini, perché non ci sono i fondi. Intendiamoci, la buffonata è come vengono fatte le cose dal ministero, non l'insegnamento di una lingua straniera di una materia. Ecco, perché intanto sono perfettamente d'accordo con la necessità imprescindibile della conoscenza dell'inglese, e da questo punto di vista il presidente Berlusconi ha non una, ma mille ragioni. La riforma Gelmini, che tutto sommato, devo dire, io parlo per il liceo classico, ma anche per il liceo scientifico, non è che mi trovo piuttosto d'accordo, purtroppo non è stata sostenuta dal ministero stesso. Io non lo so, per mancanza di forza politica oppure perché l'amministrazione, noi sappiamo che la burocrazia osteggia, no? È normale che questo avvenga, ma non si può non sostenere mandando delle persone idonee a formare coloro i quali dovranno essere i formatori in prima persona diretti, no? Nei confronti degli studenti. Cioè, niente, non ce la facciamo, colpa della burocrazia o del ministero, non ce la facciamo a diventare meno provinciali, a fare questo passo previsto dalle precedenti riforme di insegnare in inglese una materia al quinto anno del liceo. Eppure che noi italiani abbiamo bisogno di imparare l'inglese, è vero, ce ne sono diverse dimostrazioni. Una l'ha data per esempio Donatella Versace, quando Donatella si chiama? Donatella Versace, quando ha partecipato Ice Bucket Challenge, che io stesso pronuncio con un inglese probabilmente improbabile, lei però donna di mondo, ha usato questo inglese. Sentiamo. Hi, Donatella Versace, I accept the Ice Bucket Challenge and I nominate Pedro Almodovar, Pharrell and Prince. And I'm not just here to ruin my makeup, please donate to ASL. Aspetta. Che ha finito con una... no, aspetta, perché ha dovuto per forza finire in italiano il video così internazionale. Poi ha sbagliato il nome, oltre ad avere una pronuncia riconoscibilissima per noi italiani, che quindi diciamo, pronuncia un po' all'italiana, ha sbagliato il nome della malattia, ha detto ASL invece ALS. Vabbè, ma questo potrebbe essere anche un piccolo errore. Ieri un errore un po' più grave l'ha fatto Alfano, sentitelo. Oh, Cecilia, sorry for the delay. No, sorry, sorry. You're caught in traffic. No, yes, no, the wind. The wind. Oh, yeah, okay. The wind. Welcome. Hello, how are you? Luciano, stabilisci tu la. Ha giustificato il fatto di essere arrivato in ritardo non per il traffico di fronte al commissario europeo Malmström, ma per colpa del wind, cioè del vento, wind. Vabbè, questa non è male, sarà stato un errore, una gaffe, non lo so. Gli italiani e l'inglese, 800 24 00 24. Sentiamo però ancora Alfano sulle questioni più serie. Parte una nuova operazione che vede Frontex protagonista nel Mediterraneo, ancor più protagonista nel Mediterraneo, con un presidio della frontiera mediterranea, della frontiera sud dell'Europa, che oggi è l'emergenza europea. Non è ancora chiaro se questo Frontex Plus che si prevede all'orizzonte al posto di Mare Nostrum, la missione italiana, tutta italiana, che è costata solo all'Italia, non si capisce se questo Frontex Plus europeo sarà però cambierà qualche cosa per quanto riguarda poi la gestione dell'immigrazione, o se sarà semplicemente una missione europea che fa la stessa cosa di Mare Nostrum, cioè se si andrà lungo le coste africane a cercare di fare dei controlli o se si aspetterà che arrivino i barconi. Oggi l'Italia può essere ambiziosa, può pretendere di più, alzare la testa, perché è il momento in cui noi possiamo chiedere e non lasciare alla volontà degli Stati, possiamo chiedere di più, chiedere agli Stati di poter gestire anche tutto il percorso che riguarda l'accoglienza ma anche l'integrazione. Onorevole Calderoni, le chiede di intercedere presso suo papa per farsi togliere la macumba. Io chiedo di fare di persona un viaggio direttamente nei luoghi della macumba. Magari vede con i propri occhi e torna magari cambiato, non lo so. E non sarebbe una cattiva idea. Lei ha parlato con suo padre, perché pare proprio che Calderoni sia convinto che è colpa di suo padre. Ma se lui è così convinto, io dico comunque solidarietà per tutti i guai che ha avuto, ma che questa possano essere associate alla macumba, mi sembra di vivere un film di Totò, un film comico, ma io non lo so come ci vedono dall'estero su tutto questo. Pensate al povero giornalista che ha dovuto fare seriamente all'ex ministro Chiang la domanda sulla presunta macumba dei suoi genitori nei confronti di Calderoli. Cioè, come si fa a fare una domanda del genere, una cosa anche con un tono di voce così serio? Cioè, o si scherza e allora va bene, ma se si va sul serio lasciamole perdere queste polemiche. 800 24 00 24, però questa sera, lo ricordo, vi chiediamo uno sforzo di fantasia, vogliamo dare un nome all'orso della Valtellina che la regione Lombardia ha deciso di non dargli la caccia, nonostante abbia già sbranato, ucciso 4 asini. L'orso al momento si chiama M25, ma urge un nome più dignitoso. Si può fare l'attualità anche d'estate. Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti d'esta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze fanno innamorare, e le ragazze fanno innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa. Onorevole Michele Giarrusso, Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. Le piace la canzoncina che abbiamo dedicato a proposito della questione del Circo Massimo? Fateci largo che passiamo noi. Purtroppo purtroppo non è una buona serata, non sono molto in vena di scherzi o di... Che è successo? Facezzi. È successo che la Cassazione è intervenuta come avevamo previsto e ha annullato una condanna per voto di scambio politico mafioso. A chi? È successo a un politico siciliano condannato anche in appello e l'ha annullata in una maniera gravissima che avevamo già preannunciato quando avevamo detto che era una follia approvare quella norma sul voto di scambio, dicendo che praticamente non esiste più la fattispecie se non viene riscontrato il metodo mafioso che è stato abilmente inserito da parte dei fiancheggiatori ovviamente della criminalità organizzata. Però ci dica chi è questo, ho capito, chi è questo politico? Ma guardi, io non mi ricordo il nome, ma l'importanza è il principio. Va bene. Se non avevamo noi detto, se non si ricorda il nome, forse approvata ad aprile, sì, cancellava la possibilità di perseguire il voto di scambio politico mafioso. E così è stato. Ed è una cosa di una gravità assoluta. Però se non si ricorda neanche il nome, forse non è così importante di questo politico. Chi è questo politico? È importante perché fa ricaduta su tutti i processi, sì, su tutti i processi, fra cui quello per carico di Gigina Purpetta, Nicola Cosentino, tutti. Quindi non è che è soltanto questo fortunato. Senta, però noi siamo partiti da questo, cioè adesso lei ci ha dato questa notizia, va bene, questa è una vostra, è sicuramente un tema che vi sta a cuore, ma questa manifestazione al Circo Massimo dovrebbe stare a cuore, sì, da tutti quanti. Questa manifestazione che volete fare al Circo Massimo, è vero che non avete avuto l'autorizzazione da parte di chi? Della sovrintendenza? Stanno mettendo i bastoni fra le ruote in maniera criminale, perché negare a noi ciò che è stato consentito ad altri è un abuso d'ufficio. Ma chi è che vi sta, chi è, Marino? O perché sembra che sia il ministero? Ma stanno rimpallando fra varie amministrazioni. In ogni caso stanno commettendo evidentemente un reato, perché ripeto, ci sono sul sito di Grillo, ci sono anche le fotografie di ciò che è stato concesso, e quindi non è nulla, sì, di diverso, è vero, meno di quello che è stato concesso ad altri, quindi per noi viene riservato un trattamento ben diverso. Devo dire che è una cosa gravissima. O è cambiato qualche criterio, qualche cosa, oppure è assurdo, perché è stata autorizzata in passato, vabbè, a parte la famosa manifestazione della CGIL 3 milioni, quindi non credo sia un problema di numeri. I Rolling Stones che hanno lasciato un disastro, poi al Circo Massimo ci sono le foto, ovviamente bottiglie di plastica, sì, sacchetti, no, ma non è un casino. La manifestazione dei cibi d'Italia, si vedono gli stand enormi di tutta questa cosa, e però a voi lo negano senza una motivazione apparentemente plausibile. Sì, è un fatto grave. Io consiglierò ovviamente al movimento di rivolgersi comunque in procura, perché è un atto veramente incredibile. Grillo dice anche che così si fa attività politica, cercando di sgambettare gli avversari ricorrendo ad atti amministrativi illegittimi. Grillo dice che questa manifestazione la farete lo stesso anche senza permesso. Lei è d'accordo? Si può fare del genere? Io sono d'accordo sul fatto che noi la manifestazione dobbiamo farla, e sì, certamente un permesso negato in maniera illegittima non fermerà i cittadini. Senta, oggi, anzi domani, l'Economist in edicola, non so se lo sa, ma non credo, perché è una cosa che ovviamente in edicola domani, però le anticipazioni fanno vedere la copertina, e sembra una copertina un po' grillina, vabbè che The Economist è inglese, quindi con l'euro ce l'ha su, però c'è una barca di carta fatta con la moneta dell'euro, sopra Draghi, Renzi, Hollande e la Merkel, e il titolo è "Quella sensazione di affondare", c'è Renzi con un gelato in mano, cioè l'Europa e l'euro che affondano. È una copertina grillina questa? Ma guardi, non bisogna essere grillini per capire che l'euro sta affondando l'idea e il sogno dell'Europa. L'euro nelle mani dei banchieri rapaci sta distruggendo tutto quel po' che era stato costruito per unire i popoli europei. Quindi insomma condivide, vabbè, ma questa è una polemica d'oltre manica, sai, gli inglesi sono fuori dall'euro. No, è una polemica nostra, tutta sì, nostra. Senta, invece sul discorso attuale, domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe esserci questa riforma della giustizia, il tavolo al quale voi non vi siete seduti per una questione, per la questione nei confronti di Berlusconi. Però Forza Italia si dice molto contraria a quello che è trapelato di questa riforma. A questo punto le chiedo, ma... fanno il gioco delle parti. Forza Italia si dice sempre molto contraria, molto qua, e poi Renzi li accontenta. Questa è la verità. Non ci siamo seduti a quel tavolo perché abbiamo visto come è andato a finire col 416 ter, che ripeto avevamo riformulato insieme al Partito Democratico al Senato in una formulazione corretta, ed è stato smembrato dopo un accordo fra Verdini e Renzi, ovviamente su proposta e suggerimento di Berlusconi. Io anzi approfitterei dell'occasione per chiedere a gran voce, lo faremo, sì, a tutti quelli che hanno posizioni di rilievo nella lotta alla mafia e sono diversi, che si sono pronunciati a favore di questa norma, che abbiano la dignità di dimettersi subito, perché hanno dimostrato la loro incompetenza e incapacità di coprire l'ufficio che hanno in questo momento. Ma chi, per esempio? Ne sono stati tanti quelli che si sono pronunciati. Quindi basta prendere le cronache dell'epoca e vediamo quelli che si sono pronunciati a favore di questa norma. Ma mi faccia lei qualche esempio, se se lo ricorda. Non lo so, guardi, basta, è molto semplice, basta andare con Google e si rivedono le posizioni di alcuni che improvvidamente, da grandi esperti nella lotta alla mafia, hanno applaudito questa norma. Anche se il ministro Orlando aveva detto che in realtà in vista dovrebbe esserci una revisione di tutte le pene, le durate delle pene per i vari reati. Non è una questione soltanto di durata di pena, hanno colpito al cuore il reato, come era stato detto, tant'è che si riferiscono ai lavori parlamentari in cui avevamo detto proprio questa cosa. Sì. È stata inserita una frase, in maniera viene proprio indicata con la parola diabolicamente, proprio per colpire al cuore la possibilità di punire questo reato, che difatti dopo questa norma ovviamente non è stato più contestato alle procure che sul campo lavorano e che contestano il concorso esterno. Senta, per quanto riguarda sempre questa benedetta riforma della giustizia, una delle cose di cui si sa sulla responsabilità civile dei magistrati resterebbe indiretta, ma con diciamo una ricaduta fino al 50% dello stipendio del magistrato, quindi a sue spese. Anche questa secondo voi è una richiesta che viene da Forza Italia, da Berlusconi, o è una cosa che chiedono i cittadini? La richiesta che viene da Forza Italia è della responsabilità diretta. Quello che viene dai cittadini è che sia effettiva una possibilità di avere una responsabilità per chi commette gli errori marchiani, cosa che non interessa per nulla a Berlusconi e soci. Loro vogliono avere la possibilità di perseguire non i giudici che sbagliano, ma i giudici che condannano gente colpevole di gravi reati. Li vogliono perseguire con i loro avvocati e metterli fuori gioco. Questa è la loro idea, che è ben diversa da quello che si aspettano gli italiani, invece di avere un risarcimento e un ristoro per eventuali clamorosi e gravi errori giudiziari. Va bene, va bene. Grazie per ora, buona serata. Grazie, Gianrusso. Buona serata. Scusate presto. Per l'animo, ma non sono in vena. Come? Si scusava Gianrusso? Ha buttato giù. Ha detto che non era in vena. Sì, no, ma va bene, l'animo, la passione ce la mette, ma va bene così. Se, adesso vediamo se recuperiamo anche la notizia che ha detto lui di qual è questo politico per il quale c'è stata questa sentenza, credo la Cassazione, aver capito bene, poco fa. 800 24 00 24, andiamo con Mario che ci chiama dalla provincia di Venezia, buonasera. Buonasera. Eccoci. Per il nome, innanzitutto volevo segnalare che noto con piacere che avete occupato piacevolmente lo spazio lasciato libero dalla zanzara, finché dura, no? Vabbè, è una sostituzione estiva, esatto, noi siamo molto contenti. Purtroppo, sì. Solo estiva, va bene. Pensavo, l'orso, sì, se non fosse coperto da qualche diritto di copyright, non si sa mai, perché non Baloo, l'orso di Walt Disney? Come, scusi, Baloo? Baloo, per... l'orso di Walt Disney. C'è un orso di Walt Disney che si chiama Baloo? Io questo non lo sapevo. Sì, il libro della giungla. Sì, sì, sì, questo mi manca. Mia figlia c'ha 3 anni, ci sta arrivando. No, la mia ne ha qualcuno di più, quindi io questo l'ho masticato. C'è già passato. Baloo, furono, va bene, questo sicuramente è un nome evocativo. L'orso bonaccione, no? Beh, insomma, questo è un po' ironico, perché quest'orso si è fatto fuori 4 asini, deve campare pure lui, dicono, no? Sì. Sì, sembrerebbe di sì. C'è qualche problema con gli allevatori della zona, però la regione dice che devono mettere i recinti elettrificati, e questo risolverebbe tutto. D'altra parte sì, non lo si può alimentare artificialmente come se fosse un animale da zoo, no? Lui è sicuramente predare perché è un predatore. Beh certo, altrimenti non avrebbe senso ripopolare. Va bene, grazie Mario con la sua proposta. Balù, adesso ce le segniamo tutte, poi piano piano avanti a fine puntata diremo qual è la più bella. Borsa. Sentirsi con papà senza santi da pregare si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare si può fare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua cari ascoltatori all'800 24 00 24. Se invece volete dialogare con noi, interagire con noi in tempo reale, ci trovate su Twitter, l'account del programma, ve lo ricordo anche questa sera, è @ si può fare 24. Il mio è @ Ale Maurizi. Andiamo con Mauro che chiama da Verona. Buonasera. Buonasera, aspetti che io riallaccio la cintura perché stavo arrivando a casa. Allora, mi ascolti bene? Benissimo. L'orso, io lo chiamerò Yogi perché ovviamente è un animale simpatico. Numero due. Questa è la facile però, Yogi è la cosa più facile, sì, non ci ha pensato molto. Una cosa un po' meno facile. Vabbè. Quanto ha ammazzato quattro asini? Per me e per lei, quanti buoi hanno ucciso? Non ho capito qual è la domanda, scusi. Te la spiego. Sì. L'orso ha mangiato quattro asini, sì, per me e per lei, solo per noi due, sì, quanti animali hanno ucciso? Sì, sì, va bene, il problema è che... Per... Sì. Io chiamavo per Grillo, sì, per il concerto, intanto non sono stati Rolling Stones a creare problemi, ma sono stati quei maleducati a lasciare le bottiglie. Due... Non ho detto, Grillo. Ma chi ha detto questo, scusi? Lei ha detto proprio così, guardi la registrazione, i Rolling Stones... Ma come fa? Ma scusi, ma lei è matto, cioè secondo lei io penso che i Rolling Stones hanno lasciato i sacchetti di plastica... A mio avviso bisogna spiegarsi un po' meglio. Ma è ovvio, scusi, ma vabbè Mauro, lei è proprio un po' precisino, mister precisini Mauro. Io vorrei sapere da un signore delle 5 stelle, permesso che io sono praticamente apartitico... Questo non ci interessa. Il signor Grillo, invece di andare nascondersi dietro il suo blog oppure voler andare al Circo Massimo, perché non si presenta in televisione e si mette a confronto con gli altri politici? Ma ci vada lei in televisione, perché ci va Grillo? Gli piace fare così? Gli piace andare perché lei a lui piace fare le manifestazioni in piazza, a lei piace guardare la televisione. Io invece penso che non lo faccia perché forse ha un po' paura a confrontarsi. Questo può darsi. Direttamente. Va bene, perché nascondersi dietro un blog e digitare una tastiera è molto più facile. Questo è vero, questo è anche possibile. Però la manifestazione in piazza è diversa. La manifestazione in piazza non è un blog, è una cosa reale. La manifestazione in piazza, caro signore. Sì. Se lo ricordi bene. Me lo ricorderò. Me lo segno adesso. Parla solo lui, come gli altri, e del resto, come Berlusconi, parlava solo lui e come tanti altri. Solo che mentre gli altri si confrontano costantemente, lui non l'ha mai fatto. Va bene, Mauro, grazie, buona serata. Andiamo con Filippo che chiama da provincia di Milano. Buonasera. Sì, buonasera. Io volevo dire a Giarrusso, spero che sia ancora in ascolto, comunque ad altri esponenti dei 5 Stelle. Sì. Io sono un attivista 5 Stelle e volevo far arrivare a loro questa cosa. Senta, le posso chiedere intanto però se è un attivista 5 Stelle cosa ne pensa di quello che ha detto l'ascoltatore poco fa, che Grillo, si nasconde dietro il suo blog, che non parla con gli altri. Se andava a vederlo in piazza come ho fatto io, magari non la pensava così. Cioè, è vero che Grillo... è vero che informarsi con i soliti giornali, le solite televisioni di regime, allora percepiscono questo. Io però volevo dire a Giarrusso e ai 5 Stelle di farla la manifestazione, perché io ci voglio proprio andare a Roma, ci sono già stato in manifestazione a Roma, ci voglio tornare, ma mi piacerebbe che si faccia davanti al Parlamento, non al Circo Massimo, per far sentire ancora di più la nostra voce, perché posso assicurare, Filippo, che c'è tanta gente che ha voglia di venire a Roma a manifestare. Però scusi Filippo, però mi faccia dire una cosa, parliamo, no? Scusi Filippo, la manifestazione davanti al Parlamento è una provocazione, non può essere è una manifestazione di partito, di 3 giorni, e lei me la vuol fare davanti al Parlamento, non si è mai vista una cosa del genere. Come? Non voglio fare. A me piacerebbe fare un assedio più che una manifestazione. Lo so che sono parole un po' pesanti. Questo non glielo autorizzeranno mai. Però, cioè, se lo vuol fare è libero di farlo, certo, ma non è quello di cui parla Grillo. Siccome, guardi, io sono sceso in piazza anche i mesi scorsi col Movimento 9 Dicembre. Non so se le dice qualcosa. C'è molta gente che ha voglia di tornare a Roma, magari anche sotto, diciamo, il simbolo dei 5 Stelle, magari non tutti, ma molti. Ma cos'è, la marcia e su Roma? Cos'è? No, non è una marcia su cos'era Roma. Cos'era il 9 dicembre? Lo dica cos'era il 9 dicembre, cos'era, io non lo so, cos'era? Era una manifestazione creata da cittadini dal nord al sud che hanno creato dei presidi. I forconi? In molte città c'erano dentro anche i forconi, come c'erano dentro quelli del carro armato veneto. Perché ride? Perché ride? Sul carro armato ride, ha riso. Perché sul carro armato mi viene da ridere, perché non era neanche un carro armato, solo per quello. Era, e sì, era si sono fatti il gabbio. Una macchina agricola, però insomma. Sì. Poi volevo aggiungere una cosa molto importante. Importantissima. Sempre per il 5 Stelle, di usare quei soldi che hanno messo da parte anche per magari offrire il viaggio a chi non se lo può permettere. Perché c'è tanta gente che ha voglia di venire giù a manifestare, ma non si può permettere di stare via 3 giorni. Va bene, il grazie. Viaggio e il dormire e tutto il resto. Grazie Filippo, buona serata. Grazie a voi. Giuliano, anzi no, Francesco da Treviso. Giuliano, poi lo sentiamo dopo. Sì, pronto? Prego, buonasera. Sì, no, per la questione dell'orso, no? Sì. Come ci stiamo appassionando un po' alle vicende calderoliane, il quale è anche un po' esperto di animali, no? Sappiamo le vicende passate. Se femmina, Macumba. Se maschio, essendo anche Bruno, Macumbo. È maschio. Allora Macumbo, la mia proposta. Vabbè, allora perché non Calderolo? Anche Calderolo, beh. Non sarebbe male neanche visto questo, che lei ha fatto questo riferimento. Va bene, comunque Francesco, Macumbo non è male, ce lo teniamo lì. Grazie, buona serata. Andiamo con proprio Giuliano. Allora va da Roma. Eccomi, sì, buonasera. Due cose. La prima sul Circo Massimo, posso? Sì. Circo Massimo, mi sembra allucinante il diniego del sindaco sul fatto di vietarlo alla manifestazione. Circo Massimo storicamente è nato per manifestazioni folcloristiche, tant'è che lì avvenne il ratto delle Sabine da parte dei romani, quindi da lì in poi 250.000 persone ogni anno, almeno cioè 240 giorni l'anno si divertivano, diciamo, a spese dell'imperatore. Questo è per quanto riguarda Circo Massimo. Per quanto riguarda il nome all'orso, io direi il nome Nessuno, così ogni qualvolta avviene qualcosa dice chi l'ha fatto. Nessuno, sì, abbiamo risolto il problema. Lei è astuto, Giuliano. Nessuno non è male. Ma lei c'ha un retropensiero polemico nei confronti di chi vuol salvaguardare quest'orso? Diciamo che quello che lei ha detto è giustissimo, cioè è assurdo pensare di ripopolare delle zone che attualmente non hanno più diciamo la fauna selvatica e poi lamentarsi per il fatto che quelli si comportano come la natura vuole che si comportino, cioè che l'orso non vada alla coppa a prendere la carne, è ovvio che deve munirsi, deve diciamo procurarsela da solo, quindi mettere l'orso poi lamentarsi o diciamo eccepire sul fatto che lui si va a cercare il mangiare mi sembra sciocco, insomma, assurdo, allucinante, insomma, non... Guardi, lei ha ragione, però lì chi è che si lamenta? Si lamentano gli allevatori che hanno degli animali e l'orso li fa fuori, in questo caso 4 asini. Pare che questi asini fossero andati fuori zona, diciamo, quindi non sia tutto attribuibile alla fame predatoria dell'orso, però è chiaro che queste cose succederanno nel momento in cui decidiamo di ripopolare i boschi della Valtellina con l'orso. Lei tutto sommato ha ragione. E poi diciamo, c'è anche un numero minimo, no? Per ripopolare una specie ha bisogno di 100, 150, 200 esemplari, dipende appunto dalla specie, quindi mettere 10 orsi non significa che questi possano ripopolarsi, insomma c'è un limite, cosa che è successo per l'Homo sapiens e che è successo per tutte le altre specie, sia animali che umane. È solo che questo limite o ce lo diamo a colpi di... lo facciamo fare agli animali e quindi si fanno la guerra tra di loro e allora addio asini, ma addio anche... Anche altri animali, oppure come dice qualcuno, bisognerebbe intervenire, regolare un po' le zone, mettere qualche paletto, qualche recinzione in più, dividere le zone, insomma non è che si può lasciare allo stato brado, cioè non è neanche che si può dire orsi sì, allora orsi liberi, oppure niente orsi, insomma siamo in una zona civilizzata, qualcosa si potrà pur fare. Adesso poi sentiremo più avanti qual è la posizione della regione Lombardia su questo. Abbiamo Marino che chiama dalla provincia di Firenze. Marino da Scandicci. Buonasera dottor Maurizi. No, io ho sentito all'inizio trasmissione e ho sentito che tu bisogna parlare sempre più inglese, sempre più inglese, sempre più inglese. Ma io dico, basta con questo servilismo nei confronti dell'Inghilterra. Potrebbero per esempio anche gli inglesi imparare un po' in italiano. Io ho visto la grande regina. Lei ha la stessa sindrome che ho anch'io, quando gli inglesi fanno le domande. Sì. Scusi, ho visto la regina d'Inghilterra con Napolitano che non capiva una parola italiana, Napolitano l'ha dovuto parlare in inglese. Magari si poteva fare così. Napolitano per cavalleria parlava lei in inglese e la regina per in cavalleria parlava napoletano in italiano. Ecco, questo sarebbe stata una gran bella cosa. Lo so, però Marino, se lo tolga dalla testa, perché gli inglesi non lo faranno mai. Gli inglesi vanno a testa alta, fieri del fatto che l'inglese è la lingua del mondo. È una cosa che anche a me mi dà un po' fastidio, devo dire, come a lei. Però bisogna prenderne anche atto. E poi l'altra cosa è insegnarlo nelle scuole, dove poi diventa uno strumento per il futuro, per i ragazzi. Questa diventa una cosa seria. Adriano da Pordenone, buonasera. Buonasera a lei. Dopo quello che avete detto, anche dell'italiano dobbiamo esserne fieri comunque. È una lingua bellissima. Certo. Comunque non chiamo per questo. Una domanda mi viene dal cuore. Il discorso dell'orso, e non solamente dell'orso. In Friuli è apparso un po' di anni fa, una decina di anni fa, l'orso Franz, che si è mangiato un sacco di pecore nel posto. Ora questi orsi, uno ha mangiato degli asini, nel Trentino hanno mangiato addirittura 4 mucche. La domanda che mi pongo è se per caso incontra un bambino, se per caso c'è qualcuno che va a farsi una passeggiata nel bosco, diciamo così, non è possibile che un orso del genere, grande com'è, che pesa 2 quintali, non possa dannare o ammazzare anche un bambino? Certo, è possibile. Nella zona di Pordenone, tra l'altro, di punto in bianco, così apparsi dal nulla, sono apparsi anche 2 lupi che hanno sbranato a loro volta degli altri animali. Guardi, per i lupi vale la stessa cosa che vale per gli orsi, cioè sì, c'è il tentativo di ripopolare, però poi sono animali anche abbastanza feroci. E quindi... La domanda sì. È questa, mi scusi se l'ho interrotta, la domanda è questa: chi è che li porta e con quale autorizzazione e a chi ha chiesto? Cioè, la gente del posto, com'è che non viene a sapere che di punto in bianco Adriano, appare un orso? Adriano, però non è che di punto in bianco, cioè sia la Valtellina in Lombardia che il Trentino hanno deciso, le autorità, cioè non a caso così, di ripopolare le zone con gli orsi, ci hanno rimesso gli orsi, e questo è così, si sa. Ho capito, questa è una decisione comunque pericolosissima per la gente. Detto questo, quello del Friuli, nessuno ne ha saputo niente, nessuno. L'orso Franz è apparso di punto in bianco da solo, l'hanno chiamato così, poi dopo una decina d'anni è scomparso. I lupi, da quello che ne so io, sono apparsi nella provincia di Pordenone, nella Val Tramontina in questo caso, e io non ne sapevo niente, l'ho saputo leggendo il Gazzettino, un giornale locale. Va bene, Adriana, lei vuol dare un nome all'orso o è troppo spaventato? Io vorrei che l'orso se ne tornasse nelle zone più adatte al suo habitat, e non certo in queste valli nostre che dove non c'è assolutamente niente. Dove benissimo, grazie. Buona serata. 800 24 00 24, torniamo dopo il traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Si potrebbe andare tutti quanti a cercare un lavoro. No, tu no, ma in un posto lontano da casa è tempo determinato. E gridare in posto fisso è solo un'illusione. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché no? Va bene, avete capito che parliamo di lavoro. Oggi in una intervista a Repubblica, il ministro per lo sviluppo economico, Guidi, dice basta con i precari, dice imprenditori, siate responsabili, basta licenziamenti, il lavoro va salvato. E noi l'abbiamo trovata un'azienda che il lavoro lo salva e che non solo assume, ma assume a tempo indeterminato, proprio per scelta di vita. Allora ne parliamo con l'imprenditore titolare della VRM, Florenzo Vanzetto, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. VRM è un'azienda che lavora nel campo della meccanica, è così? VRM è un'azienda un'azienda meccanica classica che lavora nel settore dell'automotive. E date, fornite un sacco di aziende che poi, marchi anche importanti? Sì, sì, esattamente, forniamo i marchi più importanti sia nel settore delle moto che delle auto. Siete in Emilia, Bologna, o sbaglio? Sì, sì, sì, nella cosiddetta Motor Valley. Ecco, siamo a Bologna. Il distretto che funziona, tiene per ora e va bene, tanto che voi recentemente avete firmato un nuovo contratto con i sindacati, che immagino saranno stati felicissimi, non capita tutti i giorni, in cui ci sono nuove assunzioni, e lei in quell'occasione ha ribadito la sua filosofia, che è quella di avere più possibile lavoratori a tempo indeterminato, una cosa che par di sognare in tempi in cui si sente parlare di articolo 18, di flessibilità, di tanti problemi per cui l'Italia non va e non riparte. Intanto che contratto avete firmato da poco? No, noi abbiamo sottoscritto con le organizzazioni sindacali un rinnovo, una parte del rinnovo del contratto integrativo. Quindi abbiamo rivisto, diciamo, l'organizzazione che avevamo all'interno. Sì. Siamo la classica media azienda, quindi qualcosa come un 200 persone che operano all'interno. Abbiamo cercato di stabilizzare delle risorse sulle quali avevamo investito parecchio in termini di formazione e via dicendo, quindi abbiamo fatto un contratto che da un lato desse della stabilizzazione e dall'altra ci aumentasse un po' la flessibilità. Cioè, quindi il suo concetto è di dire: io investo nella formazione in un'azienda dove comunque gli operai devono essere formati a un livello alto, a quel punto me li stabilizzo, me li tengo per me. Perfetto, più o meno il ragionamento che noi facciamo, che abbiamo fatto, era questo. Noi in questi anni abbiamo investito parecchio in tecnologia. Sì. In tecnologia e in investimenti, cioè essere all'avanguardia per combattere in questo settore fortemente in crisi. C'è con i nostri competitor poi che abbiamo nei cosiddetti paesi low cost. Mm-hmm. Per combattere abbiamo tentato le strade possibili, quindi la prima era investire in nuova tecnologia ed impianti, la seconda abbiamo addirittura fatto un contratto di rete. La terza era quella di cercare di motivare le risorse umane che lavoravano al nostro interno. La motivazione può derivare al di là della parte economica, anche in particolar modo riteniamo con la stabilizzazione. Quindi cioè, dal vostro punto di vista è sperimentato, almeno lo state provando, l'azienda la state rilanciando da alcuni anni, credo che lei sia subentrato nel 2004, era una piccola azienda, adesso 10 anni dopo è una grande azienda, stabilizzando, cioè dando un orizzonte, un futuro alle persone, questo? Certo, riteniamo, cioè anche da imprenditore, da italiano, dobbiamo sì. uscire da questo momento di caos, di sentire sempre notizie negative. Sicuramente gli ultimi due governi non hanno favorito, a mio avviso, l'assunzione. Da un lato perché non è chiara la stagionalità, dall'altro lato perché adesso col Jobs Act ha posto il limite del 20%, però ha dato la possibilità di avere molti interinali. Gli interinali sono risorse che non gli puoi chiedere, non riesci a fidelizzarli. Quindi dal suo punto di vista gli interinali non sono, diciamo, il massimo su cui puntare. No, se un'azienda come la sua punta al massimo, non può fare affidamento su lavoratori interinali. Secondo me questo è un sistema per non creare per aiutarci con l'occupazione. Cioè l'interinale è una risorsa che uno deve utilizzare per un tempo piccolo, per una necessità sì. contingente. Stop. Senta, ma il tema dell'articolo 18, l'articolo 18 sì, no, di cui si è ripresa a discutere anche quest'estate, per lei quindi non cambia niente, lei non fa differenza? No, fermo. Fermissimo. Io sono un sostenitore che nel fare leggi, a parte che molte volte dialogando forse in costruttiva con i sindacati si ottiene, il classico esempio del contratto che ho fatto. Però l'articolo 18 è il vero ostacolo all'assunzione, perché dobbiamo renderci conto che in tutte le aziende, cioè l'articolo 18 è giusto, è un totem, è un tabù e dicendo, però è quello che ci limita, perché in un panorama hai sempre le risorse, le 2-3 mele marce, le 5, dipende da quanto sei fortunato, e dovertele necessariamente tenere. Perché, diciamo la verità, pochi sono disposti a sporcarsi le mani insieme con te. Nel sindacato nei medici del lavoro. L'articolo 18 è quello che ci impedisce... Ma le attuali normative che consentono il licenziamento per giusta causa per un'azienda grande come... Non bastano, secondo lei. Ma non esistono. Qual è la giusta causa? Trovi il pretore che comunque sia ce l'ha a modo suo, trovi quell'altro a modo suo. La giusta causa non esiste. Gli puoi fare quanti richiami vuoi. Anche le associazioni industriali non ci stanno dando una grossa mano. Io dico, se l'articolo 18 fosse tolto, quel numero l'avrei raddoppiato per due. Cioè lei addirittura assumerebbe il doppio di persone se non ci fosse l'articolo 18? Sicuramente, subito. Beh, insomma, quindi da parte sua e delle imprese che la pensano come lei c'è una aspettativa su questo. E questa potrebbe essere anche una buona notizia, perché siccome si sta parlando di un superamento dello statuto dei lavoratori anche per quanto riguarda l'articolo 18, potrebbe, come dicono in tanti, anche lei, ridare un rilancio all'occupazione. Un'altra cosa le voglio chiedere, anche questo è stato questo però un annuncio sull'IRAP, cioè una delle tasse perché sulle aziende, perché a fianco al bonus da 80 euro ai dipendenti, di cui si parla ormai da mesi, l'annuncio del governo Renzi era un taglio del 10% dell'IRAP sulle aziende, però non è chiaro se è arrivato perché non c'erano le coperture. Lei l'ha visto o non l'ha visto sto taglio? No, non l'ho visto. Non l'ha visto. Quindi, però è meglio. Cioè, ma zero spaccato proprio? Io non l'ho visto, cioè il mio commercialista non me l'ha da, al momento non me l'ha fatto vedere. Quindi siamo a livello di annuncio totale. Sì, io personalmente posso commettere gli errori perché i termini non sono perfettamente formato, però non è questo, cioè gli imprenditori hanno il vizio troppe volte, a mio avviso, di nascondersi dietro l'IRAP e questo e quello. Cioè, noi dobbiamo fare lo sforzo dovremmo essere i primi a cercare di aumentare l'occupazione senza nasconderci dietro un albero, farsi illusione. Lei ce l'ha anche un po' con la finanza, cioè la finanza che sottrae risorse all'economia reale. Ci sono tanti imprenditori che lei dice che investono per mettere da parte i soldi, ma non investono più nell'azienda. Ah beh, questo qui è l'ordine del giorno. Questo e poi anche altri fattori, l'opportunità che si dà a troppe aziende di fare il cosiddetto concordato, sì, che sono oramai quasi decotte, cercano di salvarle, ma non fai altro che allungargli leggermente la vita creando un nuovo problema, perché crei un mercato drogato, rivariano i prezzi, via dicendo. Secondo me sarebbe arrivato il momento di assumersi tutti le responsabilità e fare un po' di pulizia. Va bene, Panzetto, grazie, buona serata. Prego, titolare della VRM, avete sentito? Prego. Questa era così una fotografia, visto che oggi il ministro Guidi con questa intervista ha sollecitato gli imprenditori ad avere responsabilità, a dire assumete e non licenziate se non è proprio necessario, ma credo che nessun imprenditore voglia licenziare se non è necessario. Noi siamo voluti comunque andare a cercare una storia di un'impresa che ha come filosofia di vita, perché se lo può permettere, perché sta sul mercato, tutto quello che volete, di fidelizzare i lavoratori e assumere a tempo indeterminato. Andiamo ancora per un minuto, andiamo con qualche ascoltatore. Claudio da Perugia, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sto chiamando dalla superstrada e no. Non so come si senta in questo momento. Bene, perché... bene, vada. Niente, allora si trattava di questo. C'avevo il nome di quel sindaco che è stato assolto. Sì? Quello che diceva Francesco Cullo. Francesco Cullo è il sindaco di Patti, è vice sindaco di Patti, mi scusi, è stato perlomeno, non lo è più chiaramente, ma è un personaggio piuttosto noto, ci sono state molte voci che sono state riportate in ben due gradi di giudizio, dopodiché la Cassazione ha ripulito tutto. E questo fa il paio con l'altro sindaco, quello di Roma, il signor Marino, che anche lui riesce a impedire una manifestazione dei 5 Stelle probabilmente, o comunque a renderla molto complicata, molto aggressiva. Dobbiamo chiudere Claudio, grazie, buona serata, giornale radio, torniamo tra poco. Sì. Egyptian theater. I was standing in line with Mr. Jimmy. Perché? Perché ai Rolling Stones, sì, ma anche alle Forze Armate, anche alla Coldiretti, anche alla CGIL tanti anni fa, con 3 milioni di persone in piazza, al Circo Massimo sì, e al Movimento 5 Stelle no? Questa è la domanda che aleggia nell'aria. Il Comune di Roma o la Sovrintendenza o tutte e due, o addirittura il Ministero dei Beni Culturali, non ha concesso al momento l'autorizzazione per la manifestazione nazionale dal 10 al 12 ottobre che il Movimento 5 Stelle ha chiesto di fare al Circo Massimo. Ce ne sono state tante di manifestazioni da quelle parti, la più clamorosa fu quella della CGIL di Cofferati che portò, disse allora Cofferati, siamo 3 milioni, tante persone proprio dentro il Circo Massimo. La motivazione che riporta Beppe Grillo nel suo blog in un post, gli è stato risposto che la manifestazione è troppo importante, l'allestimento troppo grande per quest'area. Ma basta ricordarsi cosa è stato fatto in passato, addirittura una manifestazione delle forze armate con tanto di tendoni e di velivoli militari scesi sul Circo Massimo per chiedersi come mai adesso si vieta di dare questa grande arena che ospita tantissime manifestazioni al Movimento 5 Stelle. Gli italiani e l'inglese è un capitolo che andiamo seguendo in questi giorni. Ieri il preside del Parini di Milano ci ha confermato che non è più una sperimentazione, ma doveva essere l'applicazione di una riforma, l'insegnamento di una materia scolastica, una cosa importante nelle nostre scuole al quinto anno di liceo in inglese, ma non l'inglese, un'altra materia. Sentiamolo Pedretti. Intendiamoci, la buffonata è come vengono fatte le cose dal Ministero, sì, non l'insegnamento di una lingua straniera di una materia. Ecco, perché intanto, sono perfettamente d'accordo con la necessità imprescindibile della conoscenza dell'inglese, e da questo punto di vista il Presidente Berlusconi ha non una, ma mille ragioni. Eppure ieri il ministro dell'interno Angelino Alfano ha dato una nuova dimostrazione, come volete definirla, plastica, una pacchiana, di come ci sia bisogno di imparare l'inglese. In Italia siamo molto provinciali, nei vertici internazionali ci esprimiamo così, confondendo wind con wind. Sentite? Stabilisci tu la cioè lui praticamente interrogato dalla commissaria Malmström sul motivo del ritardo, cioè interrogato, insomma ci si trova, si fanno due chiacchiere prima della conferenza stampa, e lui dice no, non è il traffico ma il wind, cioè il vento che ha fatto ritardare l'aereo, il wind, fantastico. Risentiamolo un pezzettino? Parte una nuova operazione che vede Frontex protagonista nel Mediterraneo, ancor più protagonista nel Mediterraneo, con un presidio della frontiera mediterranea, della frontiera sud dell'Europa, che oggi è l'emergenza europea. Forse un lapsus, forse una piccola gaffe quella di Alfano su Wind. In tema Frontex c'è chi, come l'ex ministro europarlamentare Cécile Kyenge, chiede che l'Italia abbia un ruolo ancora più importante, addirittura quello di gestire anche l'accoglienza degli immigrati. Una richiesta che va un po' in controtendenza con quello che invece va dicendo in giro Alfano, che vuole scaricare all'Europa tutta la patata bollente. Kyenge, sentiamo. Oggi l'Italia può essere ambiziosa, può pretendere di più, alzare la testa, perché è il momento in cui noi possiamo chiedere e non lasciare alla volontà degli Stati, possiamo chiedere di più, chiedere agli Stati di poter gestire anche tutto il percorso che riguarda l'accoglienza ma anche l'integrazione. Calderoni le chiede di intercedere presso suo papà per farsi togliere la macumba. Io gli chiedo di fare di persona un viaggio direttamente nei luoghi della macumba, magari vede con i propri occhi e torna magari cambiato, non lo so, e non sarebbe una cattiva idea. da una festa del PD, non so esattamente quale, il vice segretario del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, dice: il partito farà di tutto per salvare il giornale, l'Unità. Ora però c'è da chiedersi cosa farà il partito che ha il governo. Non farà mica una leggina da qualche parte che magari con soldi pubblici, come già avviene per tanti giornali di partito, si trova il modo di trovare una scorciatoia? Perché questo credo che non sarebbe giusto e non sarebbe neanche tollerabile. Sentiamola. Noi abbiamo un giornale importante a cui guardiamo con grande rispetto e con grande affetto, è l'Unità. In questi giorni non c'è più la possibilità di leggerlo come vorremmo, ma voglio da questo palco garantire non soltanto ai giornalisti, ma a tutti voi, a tutti i lettori, ma a tutti coloro che hanno a cuore l'informazione, che il Partito Democratico farà tutto, tutto quanto possibile perché l'Unità riapra e torni a pubblicare esattamente come ha fatto per 90 anni. Beach on the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, gli occhi neri e gli occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. E questa sera l'ombrellone di Beach on the Beach lo andiamo a piantare in Valtellina, una località per niente balneare, ma è invece luogo, diciamo, sede di discussione attorno alla vicenda dell'orso M25, per il quale tra l'altro rinnoviamo l'appello a mandarci una proposta per dargli un nome più dignitoso, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Oggi il Corriere di Milano scrive: convivere con l'orso, che però ha già ammazzato quattro asini in Valtellina. La scelta della regione Lombardia, lo difendiamo. Noi abbiamo convocato l'assessore Claudia Maria Terzi all'ambiente. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Assessore regionale della Lombardia su questo tema appunto dell'orso, perché insomma, voi avete detto chiaramente, mentre in Trentino gli stanno dando in qualche modo la caccia per braccare e catturare quest'orsa che ha aggredito un cercatore di funghi, noi, dice, in Lombardia e ci comportiamo diversamente. Libertà all'orso. Beh, noi in Lombardia ci comportiamo diversamente perché dal 2010 abbiamo attivato un percorso anche con l'Unione Europea che prevede, che vale 4 milioni di euro, che coinvolge ovviamente non solo la regione Lombardia ma tante altre regioni il cui capofila è il Parco Nazionale dell'Abruzzo, per fare in modo non solo che venga reintrodotto l'orso in quelle zone che erano fino a 80 anni fa abitate anche dall'orso piuttosto che dal lupo, ma che per fare in modo che si possa appunto completamente attivare questa convivenza e perché si possa ovviamente di conseguenza anche monitorare la presenza dell'orso. Siamo convinti che questo si possa realizzare. Certo è, insomma, non tutto può andare liscio, ma la regola sì, mi pare negli ultimi anni sia stata quella di una possibile convivenza. Ci sono dei casi appunto come quelli che lei ha citato, ma le dico un numero su tutti può farci capire qual è il rapporto, che in 5 anni Regione Lombardia ha rimborsato 37.000 euro. Scusi, è andata via la linea, assessore. 37.000 sì, euro per fare che cosa? Non abbiamo sentito. Noi abbiamo nel programma che le citavo prima è previsto anche il risarcimento di quegli allevatori che ovviamente subiscono dei danni in seguito al passaggio alla presenza appunto dell'orso. In 5 anni noi abbiamo rimborsato 37.000 euro, che sono pochi, lasciatemelo dire, insomma. Cioè lei dice pochi allevatori si fanno avanti. Sappiate che c'è questa legge. No, pochi allevatori si fanno avanti. Ah, perché è successo poche volte. No, gli allevatori lo sanno benissimo, perché uno dei fondamenti di questo progetto era proprio l'informazione sì, e la collaborazione con le popolazioni che potrebbero essere interessate dalla presenza dell'orso. Anche... Devo dire che ci sono pochi episodi, sono sporadici, sono delle eccezioni e non sono la regola. Questo è il punto che volevo evidenziare. Quindi, diciamo, il modo in cui voi avete pensato di gestire questa questione, diversamente da forse dal Trentino, adesso magari ci dirà anche cosa ne pensa su questo, perché qualcuno parla di una brutta figura a livello internazionale del Trentino, una zona di montagna importante e nota nel mondo. Cioè, il modo in cui invece voi volete gestire Lombardia è quello di dire: abbiamo ripopolato, è tutto sotto controllo. Se l'orso va, diciamo, appappandosi qualche animale d'allevamento, scatta il rimborso, fine della polemica. Non solo, noi abbiamo dato agli allevatori, in comodato d'uso gratuito, i recinti elettrificati che servono proprio per tenere lontano l'orso. Abbiamo poi avviato tutto un progetto, concreto ovviamente, non solo a parole, di informazione, di educazione in senso lato, nel senso che ovviamente bisogna ricostituire quell'ambiente anche nella popolazione che ovviamente non è più abituata a convivere con l'orso piuttosto che col lupo, perché lo stesso ragionamento e lo stesso progetto lo stiamo portando avanti per il lupo. Fino a 80 anni fa, sì, nelle nostre valli era normale, insomma, vedere tracce della presenza dell'orso. Però adesso non è normale entrarne in contatto, no, sicuro, certo. Ma il problema è che all'ascoltatore di prima che diceva: ma se arriva il bambino me lo sbrana, perfetto, ma magari ci sono i cartelli dove dicono: state attenti, qui è meglio che non entriate perché qui probabilmente, ecco, potete incontrare l'orso. Questo è un punto importante, perché allora intanto, mettiamo i puntini su lei. 80 anni fa lei dice c'erano gli orsi e i lupi, però 80 anni fa in montagna, anni fa, sì, però c'era forse meno turismo di quello che c'è adesso, sì, in giro, e quindi su questo bisogna stare attenti. Cioè, non teme una ricaduta negativa sul turismo in Valtellina, no, per esempio? No, guardi, sono assolutamente convinta di no. Ora, secondo me, episodi, le ripeto, i 37.000 euro in 5 anni sono distribuiti, devo dire, con delle strane distribuzioni, nel senso che nel 2010 per esempio ne abbiamo dati 11.000, probabilmente perché sono passati più orsi, e nel 2011 solo 2.650 euro, quindi ci sono degli anni veramente diversi. Proprio questo sta a significare che ci sono degli episodi che sono, ribadisco, delle eccezioni e non certo la regola. In questo caso, secondo me, si è pensato solo di farne, insomma, di fare un po' troppa polemica su questo episodio, che, ribadisco, è un'eccezione. Io veramente lo considero, e ho notizia in questo senso anche dagli uffici, che sia un'eccezione, ma non vuol dire che debba essere sottovalutata o trascurata. Cioè, non sto dicendo che allora non ci preoccupiamo, vuol dire semplicemente che allora verificheremo se tutte le procedure sono state poste in essere correttamente, e in difetto ovviamente interverremo anche noi, sì, non solo chiederemo un'attivazione degli allevatori. Quanti dovrebbero essere più o meno gli orsi, se avete un numero esatto? Noi siamo all'M25 perché è il 25esimo che contiamo di passaggio, però, perché il vero problema è che non hanno un chip come i nostri cagnolini domestici di casa, e quindi sappiamo esattamente dove sono. Noi abbiamo attivato, Regione Lombardia è stata la prima ad attivare un sistema di monitoraggio che ci permette di vedere, di capire, insomma, sostanzialmente di seguire dove passa l'orso. Ma gli orsi passano, se si ricorda, l'M13 qualche anno fa, poi ha superato il confine, ha fatto la fine che ha fatto, proprio perché non può. In Svizzera è stata abbattuta. Senta, esatto. Ce l'ha un nome? Vuole partecipare anche lei al concorso? Non vorrei poi sostenere la polemica sull'inglese, non inglese e tutto, però proprio per, siccome fino adesso i nomi che hanno proposto è il Macumbolo, eviterei, lo casserei proprio così per, sì, di partenza, e nessuna altra, gli darei un nome magari positivo, magari non arriviamo proprio a Winnie the Pooh, però un qualcosa di positivo che fa capire che l'orso non è solo quello che ci sbrana o che ci insegue per ucciderci, potrebbe essere una bella idea, non le pare? Sì, e quindi che nome è così? Cioè, questa è la... butto lì perché è l'unico che mi viene in mente, avendo fatto la zia fino a poco fa, Winnie the Pooh, ma ecco, giusto così. Winnie the Pooh. Senta, volevo chiedere un'altra cosa, adesso me la sono dimenticata perché ci siamo infilati in questa cosa del nome, no, eccola la cosa, è questa. Ma secondo lei il Trentino, come qualcuno ha detto, con questo fatto che sta invece dando la caccia per catturare questo orso e si è scatenata tutta una polemica, forse anche in quel caso lì, diciamo, più grande del fatto, però siccome gli stanno dando la caccia ci sono gli animalisti che sono contrari, qualcuno dice figuraccia internazionale del Trentino? No, mi stupisce un po' la posizione del Trentino. Di solito, guardi, siamo noi che guardiamo al Trentino per imparare su come gestisce la natura e su come ha gestito fino adesso la natura e il rapporto tra uomo, ambiente, natura e anche ovviamente fauna selvatica. Questo contraddice un po' veramente la bontà delle azioni che hanno posto in essere fino adesso i trentini. Mi stupisce veramente tanto, non me lo sarei aspettato da loro, e devo dire la verità, anzi avrei dato per scontato una posizione diversa, cioè quella di dire: se ci sono dei problemi li affrontiamo insieme e vediamo, perché poi per amor di omicidio, può esserci sempre qualcosa, qualche fallo in quella, qualche problema in quella che è una regola, un progetto che abbiamo messo giù insieme, ma veramente non mi sarei aspettata questa reazione da parte del presidente, per esempio, della provincia di Trento, di cui dichiarazioni che insomma mi paiono anche abbastanza forti. In regione Lombardia ragioniamo in maniera diversa. Quindi per una volta insomma la Lombardia si mette un po' al traino sulle tematiche ambientali rispetto al Trentino, che in genere invece esatto. Ci dà lezioni. Va bene, vedremo, poi incrociamo. Cioè, lei dice che è una questione statistica, ci sono così pochi casi che queste polemiche sono... Bisogna imparare, senza dubbio, bisogna imparare a conviverci, cioè nel senso che ovvio che non, dalla sera alla mattina io non mi posso trovare l'orso fuori casa, ma non è lì che l'orso deve stare, non è il normale che l'orso arrivi vicino ai paesi. Cioè, dovesse succedere che l'orso arriva davanti casa a qualcuno, a quel punto anche la Lombardia cambierebbe. Abbiamo fatto un numero dedicato apposta per le segnalazioni, si figuri lei, ci sono 120 guardie iper specializzate che intervengono subito. Non ci siamo limitati, come diceva l'ascoltatore che mi pare chiamasse dal Friuli, a dire dalla sera alla mattina abbiamo liberato 100 orsi o 100 lupi. Non è così, insomma, abbiamo ricreato l'ambiente favorevole e loro sono tornati, e questo direi che è una cosa positiva per noi, nel senso che vuol dire che l'ambiente in una zona della Lombardia in particolare sta veramente migliorando tanto, perché se era scomparso l'orso, così come era scomparso il lupo, perché non aveva più le condizioni per sopravvivere, e non solo su quelle di attaccare gli asini degli allevatori, capiamoci, è proprio l'ambiente in generale che è migliorato. Benissimo. Una buona notizia. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata a lei. Parlare con le mie sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, 800 24 00 24. Abbiamo Giuseppe che ci chiama da Milano. Buonasera. Pronto? Pronto. Pronto, buonasera. Prego. Sì, io ero profugo anch'io nel 62. Sono di origine ebraica. Nel campo profugo di Napoli c'erano degli ebrei e dei cristiani maltrattati in Egitto dai musulmani, e noi dobbiamo sapere anche chi ricevere, perché ci possono essere anche dei terroristi al posto. Non, dovete mandare degli aerei a ricevere i cristiani che scappano da quei paesi, come in Iraq vengono massacrati. Una volta una signora Giuseppe, però non ho capito cosa c'entra gli aerei in Iraq con quello che è successo a lei. Cioè, lei nel 62 era in un campo profughi a Napoli? Nel 62 siamo scappati dall'Egitto. Sì. Perché eravamo italiani ebrei, oltre che non solo ebrei italiani, anche c'erano altri italiani che sono stati ospitati nel campo profughi di Napoli, che scappavano dall'Egitto perché venivano maltrattati. Quindi diciamo lei è stato accolto, meno male, l'Italia è un paese accogliente, quindi non ho capito se oggi ci invita a portare avanti questa stessa accoglienza anche nei confronti di altri, oppure se invece dovremmo cambiare verso. Secondo per dirla me, come direbbe Renzi, bisogna ricevere anche la gente veramente profuga. Non sappiamo neanche questa gente qua sono veramente profughi. Guardi Giuseppe, però è lì che si gioca tutto. Infatti stanno alcune settimane o mesi nei centri di accoglienza, dove poi si aspetta che vengano esaminate le domande per vedere se sono profughi oppure no. E poi c'è una signora alla stazione centrale, ha visto un arabo che chiedeva l'elemosina. E quindi? Allora, lei gli ha detto: guarda che io spiccioli non ne ho. Lui ha detto: vedrete domani, comanderemo noi. Vogliono venire qua a comandare gli altri. È questo il fatto. Vabbè Giuseppe, adesso non lo so, va bene, questo è quello che ha visto lei. C'era un pazzo esaltato che diceva: vedrete, comanderemo noi. Ma era un pazzo esaltato. Che dobbiamo farci? Non lo so, Giuseppe. Grazie, buona serata. Giancarlo da Torino. Pronto Giancarlo, buonasera. Pronto? Caduta la linea. È grandissimo, perché Giancarlo pensava che fosse caduta la linea e ha buttato giù lui, invece noi lo sentivamo benissimo. Alessandro da Udine, buonasera. Allora, buonasera. Allora, io volevo parlare di orsi. Sì. Allora, pochi anni fa assieme a dei ricercatori dell'Università di Udine, siamo andati nelle valli del Natisone, che è un bellissimo posto, a cercare un orso. Allora, era un maschio adulto, 250 kg, munito di radiocollare, quindi noi di questo orso conoscevamo sia la posizione sia la distanza. Bene, allora per tutto il giorno l'orso si è mantenuto a 250 metri da lui, non siamo riusciti a vederlo, ma lui in qualche modo percepiva la nostra presenza, perché era proprio 250 metri costante. Ma voi eravate lì per studiarlo in quanto ricercatore? Io mi ero accodato, insomma, no? Nessuno era armato, sì. Anzi, l'unica preoccupazione di questi ricercatori più che l'orso erano le zecche, e loro speravano, cioè, credo che fossero lì per monitorarne lo stato di salute. Insomma, quindi siete stati lì a 250, l'orso è rimasto a 250 metri. Noi anzi cercavamo di avvicinarlo di più, ma lui invertiva la rotta, insomma, no? Quindi lei dice che c'è una specie di radar l'orso e percepisce. Ma cosa? Quella che... Radar probabilmente ha un udito e un odorato, sì, migliore del nostro, insomma. Comunque nessuno di noi ha mai avuto paura. Eppure, quindi, insomma, 250 kg, insomma. Sì. Quindi secondo lei un orso non ho capito qual è la conclusione di questo suo discorso, però. La morale. Insomma, qua si parlava di pericolosità degli orsi. Cioè, dicevano questi ricercatori, piuttosto stiamo attenti alle zecche, insomma, no? Quindi se lo dicono i ricercatori che conoscono l'orso, bisogna dedurne che l'orso non è pericoloso. Va bene, Alessandro, ma è poi tornato a fare queste ricerche in futuro, successivamente? No, ma se mi invitano di nuovo ci torno. Va bene. Purtroppo quell'orso lì fu ucciso poco dopo, insomma. Da chi? Perché era ritornato in Slovenia, credo. Ah, vabbè, oltre confine, dove ce ne sono di più forse, dove sono meno teneri. Va bene, grazie Alessandro, buona serata. Arrivederla. Andiamo con Francesca, che chiama da Varese. Sì, buonasera Alessio, Maurizio. Sta. Francesca, tutto bene? Che succede? Sono io. Ride, allora, anzitutto per l'orsetto metterei il nome Salvo. Sì. Sperando che sia di buon auspicio. Però anche un secondo nome, Alessio. Ah, il mio nome? Il mio nome? Se le aggrada, sì. Ma sì, perché no? Per quale motivo? E perché lei è una persona così amorosa, così pacata, che questo orso, insomma... Ma l'orso ha sbranato quattro asini, però, cioè, non lo so se... Che diventi un po' più mansueto con questo battesimo, diciamo, così ben augurante. No, adesso a parte le ciance, comunque no, Salvo è il mio nome. Se lei partecipa al gioco, dice Salvo, non Alessio. Esatto, Salvo, ma no, anche il secondo nome ci vuole, però, comunque. Salvo, no, Alessio. Ascolti, io la volevo ringraziare molto, perché ormai siamo in fine di periodo... Di Vice Zanzara, quindi grazie tanto soprattutto per aver diffuso la parola e le opere del maestro Ercolini. E addirittura maestro Ercolini, mi fa piacere che sia già stato assunto, sì, a questo, sì, ruolo assunto. No, perché io appunto, noi abbiamo avuto le elezioni alle ultime amministrative, c'è stato un cambio radicale di amministrazione qui da noi, no? Io, sì, sono nell'Alta Val Ceresio, zona confine svizzero. Vabbè, questi però sono fatti, diciamo, privati. Sì, fatti privati, e praticamente abbiamo improntato tutto sul fatto di voler far diventare il nostro piccolo comune un comune piccolo, 3.000 persone, un comune virtuoso. E quindi ho già segnalato alla neosindaca, tra l'altro la prima sindaca donna nella storia del nostro paese, tutti i suggerimenti, e soprattutto il libro di Rossano Ercolini. Va bene. Quindi siamo contenti che le buone pratiche germogliano e portano cose buone anche da altre parti. Insomma, Ercolini è partito da Capannoli, però adesso sta facendo questa battaglia per rifiuti zero in tutta Italia. Andiamo con Claudio da Roma, buonasera. Claudio? Sì. Buonasera, pronto? Tocca a lei. Maurizio, dottor Maurizio, buonasera. Ascolti, io sono uno dei titolari di una delle ditte di pulizia che ha pulito successivamente al concerto dei Rolling Stone. No? Ah, quindi lei casca a fagiolo stasera. Ecco, io lo spiego. Cioè, decidere di non far fare, di non far fare la manifestazione dei 5 Stelle al Circo Massimo, cioè è una vigliaccata, dopo che hanno fatto fare a cani e porci qualsiasi tipo di manifestazione. Adesso però mi devi dire chi erano i cani e chi erano i porci, cominciamo con i Rolling Stones. Vabbè, un po' cani, dai, un po' porci, vabbè, insomma, lei dice un po' cani, un po' porci, però dico è un movimento che sta nascendo, un movimento che sta crescendo, sì, eccetera, magari può dar fastidio a qualcuno in questo periodo, in questo momento delicato del governo. Cioè, dai, cioè, è una vigliaccata. Però, è una, scusi, vigliaccata. Sono due istituzioni, sì, contro il Movimento 5 Stelle. Ma lei è un, dai, simpatizzante? Sì. Sì, beh, quanto vabbè, basta. Non c'è niente di strano, Claudio, non c'è niente di strano. Beh, quando è andata a ripulire il Circo Massimo dopo i Rolling Stones c'era di tutto. C'era di ovviamente tutto, un tir è stato riempito. Ah, io ero uno dei titolari delle quattro ditte, perché c'erano quattro ditte diverse, quindi si immagini lei, si immagini. E per quello chiamati per l'occasione mi... proprio, ovviamente, sì, sì, sì, ad hoc, e pagati dal comune, che... pagati dal comune, immagino. Certo, certo, e per quanto mi riguarda, cioè, per quanto ne so, i grillini sono delle persone molto educate che non sporcano meno perché... i grillini dei Rolling Stones. Certamente. O dei fan dei Rolling Stones. No, ma guardi che c'è, è documentato, perché all'ultima manifestazione di San Giovanni c'è stato veramente c'è stato poco da lavorare, quindi non... Va bene, Claudio, io sono anch'io dell'idea che per ora questo diniego sia un po' da capire, sia un po' strano, perché sono state fatte talmente tante manifestazioni da quelle parti che non si capisce perché proprio questa adesso no. Piero da Pavia, buonasera. Buonasera. Io chiamo in merito all'intervento dell'assessore Terzi di poc'anzi. Allora, io sì, augurerei all'assessore Terzi di incontrare l'orso durante una sua bella camminata per funghi. Lei ha detto però che questo rischio non si corre, perché ci sono i cartelli e gli orsi. I cartelli, evidentemente, sì, l'assessore Terzi non ha mai fatto una sola camminata in montagna. Lei ce l'ha fatta? Certamente, sono un grande camminatore di montagna, non sono un cercatore di funghi, però io le dico una cosa, in montagna l'orso non è in grado di sapere dove dover andare o dove dover passare o poter passare. Come si fa a stabilire che i cartelli difendano da aggressioni? Allora, al di là del fatto che i 35.000 euro che con i miei soldi hanno rimborsato, la Regione Lombardia ha rimborsato per sbranamenti di bestie, al di là del fatto che è una cosa che non mi fa piacere per nulla, perché vorrei capire in cambio che cosa abbiamo ottenuto da questa ripopolazione o ripopolamento, non so come si dica, io vorrei sapere come faccio dall'assessore Terzi in persona, cosa devo fare se incontro durante una passeggiata con mio figlio, sì, un orso. Chiamo forse il numero che hanno istituito. Chiamo il però scusi, io capisco la sua domanda, diciamo, preventiva, però lei che ha detto ha fatto tante camminate, è un camminatore, ha mai visto un orso? Si è mai trovato qualcuno? Certamente che... no, però ho sentito il signore. Ci sono che le guardie, ci sono, ma quella era il Trentino, dall'altra parte. Ci sono le guardie lì, come dice. Scusi, stia tranquillo. Come si chiama? Piero. Ci sono le guardie, come dice l'assessore Terzi. Ha detto che ci sono 120 guardie che vanno in giro, forestali, e dovrebbero anche un po' presidiare il territorio. Le ha viste? Io non ne ho mai incontrata nessuno. Una, però so che ci sono, questo non lo nego. Io personalmente le garantisco di non averne mai vista una. Però scusi, adesso lei mi dice, questi 30.000 euro in cambio cosa abbiamo avuto? Beh, abbiamo avuto la salvaguardia di un patrimonio naturale importantissimo. Ma io spero che questo patrimonio se lo incontri tutto durante una bella passeggiata all'assessore Terzi, così poi dopo ci racconta che cosa bisogna fare. Perché mi lasci dire una cosa, io ho sentito, sì, il racconto. Però scusi Piero, non è mai successo in Valtellina che un orso abbia aggredito una persona. L'assessore ha detto questa cosa che secondo me è di buon senso, cioè se non è mai accaduto una volta, addirittura gli animali aggrediti sono pochissimi, non c'è da preoccuparsi. No, non c'è da preoccuparsi, però io ho sentito quel signore che ha rischiato di essere sbranato in Trentino, ma sì, scusi, ovviamente l'orso non è in grado di stabilire quali sono i confini dove andare, e nella civilissima Svizzera rischia di essere abbattuto, nella civilissima Austria rischia di essere abbattuto, nella civilissima provincia di Bolzano o di Trento rischia di essere abbattuto, solo nella regione Lombardia, dalla quale io non mi sento più rappresentato, invece rischia di essere ha fatto favorito. Bene a chiamare Piero per dare il suo punto di vista. Sono, sì. Io ho, mi lasci dire un'ultima cosa, ho ascoltato con la grande pacatezza con la quale il signore che andava a funghi ha incontrato l'orso, e vi assicuro che dentro un bosco è terrorizzante incontrare un orso. Spero che non succeda mai. Spero lei non può assicurare Piero, però lei cosa vuole assicurare? Ha sentito un racconto. Che cosa succede? No, ma lei Piero però non si infervorito. Lei cosa può assicurare? Lei non l'ha mai visto l'orso, ha sentito un racconto di uno, quindi adesso ci viene lei ad assicurare che è terrorizzante. No, non esageriamo. Sì. Il principio di salvaguardia della vita delle persone è superiore a qualsiasi altro principio di ripopolamento di orsi. Va bene, abbiamo capito Piero, grazie, buona serata, dobbiamo fare una pausa, la facciamo subito. Si può fare l'attualità anche d'estate. Sono un mafioso innamorato. Con una sketch, una gag sulla mafia, perché naturalmente anche della mafia si può ridere. In questo caso non so se va presa a ridere oppure no. Parliamo del premio Sciascia e intanto salutiamo Gaetano Savatteri, giornalista noto anche per le sue apparizioni televisive, presidente in questo caso della giuria del premio Sciascia. Ciao Gaetano. Ciao a voi. Allora, la questione è questa, te la dico così, ma fra tutti i libri che c'erano che potevano essere andare in finale al premio Sciascia, proprio uno scritto da un mafioso dovevate prendere, che ha scatenato un po' di reazioni critiche, Gaetano. Ma diciamo, per rispondere a una battuta, come dire, solo i mafiosi conoscono la mafia meglio di tutti. Ma comunque questo libro è scritto da un giornalista che si chiama Carmelo Sardo, che l'ha scritto a quattro mani con un ex killer della mafia. Quest'uomo che è in galera da 30 anni, si è laureato in carcere, in filosofia, ha scritto questo libro insieme a Sardo, dove dice: è vero, io ho ucciso perché avevo 20 anni, perché non credevo nello Stato. Sono in galera da 30 anni, ho capito di aver sbagliato, chiedo perdono alla mia città, lui è di Portampero, provincia di Agrigento, che dovrebbero avere il male che ho fatto. Invito tutti a fare una riflessione su quegli anni dove tutti eravamo impazziti di violenza, di odio e così via. Adesso naturalmente sono in carcere, mi merito di stare in carcere, dice in questo romanzo autobiografia. Malerba, pubblicato da Mondadori. E naturalmente poi si chiede anche, dice, io adesso che sono cambiato, merito i benefici che vengono dati agli altri detenuti non accusati di mafia, che hanno ucciso, che hanno fatto stragi, hanno ucciso carabinieri e poliziotti, ma che non hanno la garanzia di mafia e quindi possono ottenere benefici, che poi si tratta un permesso premio, accedere al lavoro comune in carcere. Mi sembra che siano temi molto sciasciani, i diritti dell'imputato, i diritti dei colpevoli. Peraltro non è un mafioso che dice viva la mafia, è un mafioso che dice: sono stato un mafioso, ho sbagliato, avevo 20 anni e purtroppo sono cresciuto in un mondo che non credeva nello Stato. Oggi, quando hanno ammazzato i miei parenti, mi sarei rivolto a un magistrato. Ecco, però non la pensa così uno dei giurati. Ora io so che domani farete una conferenza stampa per spiegare tutto quello che è successo. Uno dei giurati che si è dimesso dalla giuria. No, non si è dimesso, il giurato si è dissociato. Si è dissociato. Dopo che lui stesso aveva detto sì alla selezione del libro. Quindi lui aveva detto sì inizialmente? Sì, lui aveva detto sì. Poi cosa è successo secondo te? L'avrà letto? Se avesse detto sì, posso immaginare solo che avesse detto sì senza averlo letto. Diciamo che per uno che fa la giuria di selezione non è un grande merito, però per carità uno fa quello che vuole. E poi si è pentito perché di aver detto sì. Allora a questo punto da questo punto di vista, siccome nella terna finalista, sì, questo c'è il libro di Caterina Chinnici che racconta suo padre, Rocco Chinnici, certo, magistrato ucciso alla mafia, c'è un giallo di Salvatore Falzone che racconta un delitto tra mafia e antimafia a Caltanissetta, sono tre libri che hanno come filo conduttore il tema della mafia. Mi sembra che questo premio, che è alla sua 26ª edizione, che mai aveva premiato o comunque selezionato un libro che riguardasse la mafia, mi pare che ancora adesso nel 2014, quando si parla di mafia in un premio letterario, sembra come il cane in chiesa che dà fastidio. Cioè, fino ad oggi il premio Sciascia non aveva mai avuto in finale libri che parlassero della mafia? No. Quindi, diciamo, tu come presidente della giuria hai fatto in qualche modo una scelta, cioè invece hai voluto affrontare questa questione da varie angolature. Certo. La giuria di prendere tre libri importanti che toccano dei temi importanti che sono legati a Sciascia. Ricordiamoci che Sciascia è stato il primo in Italia che con il giorno della civetta ha raccontato nel romanzo La mafia. Certo. Successo prima, e lo stesso Sciascia durante la sua carriera fu accusato di aver fatto un personaggio come Don Martino che ammiccava ed era ambiguo e che era troppo fascinoso come personaggio mafioso. Quindi, come vediamo, sono temi importanti. Ecco, ma secondo te, cioè, esiste questo tema, lo citavi anche tu, cioè il fascinoso, cioè l'irresistibile attrazione, il tema dei cattivi maestri, cioè in questo caso secondo te c'è una problematica che magari secondo te vale la pena rischiare per comunque affrontare questo tema? C'è un tema, perché abbiamo visto moltissime fiction dove, e vediamo ancora moltissime fiction dove i mafiosi, come dire, hanno un ruolo importante, sono fascinosi, sono interpretati a volte anche da attori di grande fascino. Quindi c'è un tema anche di rappresentazione della mafia nei libri, nella narrativa, nella televisione, nel cinema. Ci sono, tu all'inizio hai detto di riunire per raccontare la mafia, c'è un film come quello di Piff che è raccontato in un modo nuovo, diverso, con un sorriso la mafia. Quindi naturalmente sono temi che secondo me vanno discussi e affrontati, soprattutto in un premio letterario e soprattutto in un premio letterario che è ispirato a un grande maestro del laicismo come Leonardo Sciascia, che si è occupato di giustizia, di mafia, di diritti dei condannati, dei imputati, di pena e di detenzione. Senti, ma qualora dovesse ricevere un premio questo libro, nessun imbarazzo lo statuto del premio prevede che... No, dico, nello stringere magari anche la mano all'autore, a parte l'autore si trova in carcere. Quindi viene il giornalista, verrebbe il giornalista. E siccome il premio può essere dato e affidato soltanto a chi è presente al premio, noi abbiamo Carmelo Sandro, il premio, già come finalista, il finalista è Carmelo Sandro, che ha scritto un libro con un detenuto. Quindi io, voglio dire, e tutti quelli che saranno seduti là, ci sarà Carmelo Sardo, Caterina Chinnici e Salvatore Falzone, che sono i tre finalisti. Senti, quindi, ma cioè, nessuna scelta rimane imbarazzante. Vabbè, non ci sarà, è chiaro, perché poi è in carcere, ci sarà soltanto il giornalista. Da parte tua, questo libro lo definiresti un libro che può, diciamo, aiutare la cultura antimafia? Un libro antimafia? Anche se visto... un killer di mafia che dice ai giovani siciliani e meridionali: la via della mafia è senza sbocco perché porta alla morte o al carcere, pensateci bene prima di farlo, mi sembra un libro, voglio dire, che è importante da leggere. Poi se ne può discutere molto, se dare la voce o meno, ma un uomo che oggi dice dal carcere questa cosa, mi sembra, voglio dire, che sia un tema che oggi in Sicilia, in Calabria, in Campania è un tema importante. Grazie mille, buona serata Gaetano. Grazie a voi, ciao. Gaetano Sattere, in questo caso presidente della giuria del premio Sciascia. Avete sentito, questa era la questione. Allora, abbiamo fra poco i titoli della SET o del TG1. Vediamo, intanto andiamo con Angelica che ci chiama da Como. Buonasera. Buonasera. Prego. Volevamo proporre un nome che ha suggerito mio figlio Francesco, sì, che è Beorn, che è un personaggio di un libro di Tolkien, L'Hobbit, che uh-huh. è un uomo che in alcuni momenti si trasforma in un orso e in questi momenti perde il controllo delle sue azioni e diventa molto aggressivo. Ah, ok, quindi abbiamo, diciamo, anche una... questa ambivalenza tra uomo, sì, e animale, e la contraddizione tra i temi che avete trattato. Un vero e proprio personaggio. Angelica, grazie. Beorn, adesso vediamo, che abbiamo Balù, qualcuno ha detto Yogi, Macumbo. poi c'è Nessuno, Beorn. Beh, anche l'assessore Terzi ha dato il suo nome, Winnie the Pooh, però mi pare che fosse così, messo lì senza tanta convinzione. Poi Winnie the Pooh è già un altro orso abbastanza famoso, del resto anche per Yogi è così, ma anche per Baloo, perché è l'orso di Disney. Non è che abbiamo per ora moltissima fantasia, ascoltatori, scatenatevi. 800 24 0024, abbiamo la pausa, vai. Viene da pensare, visto che comunque 80 euro sono 80 euro, vuol dire che poteva andare ancora a peggio e che comunque quell'operazione di stimolo alla nostra economia, perlomeno all'economia reale degli italiani, non ha funzionato o non ha ancora funzionato. Comunque questo è il dato che ci conferma. Questo è il preambolo di Rico Mentana, TG della 7, tra poco sentiremo, forse abbiamo i titoli, intanto il TG1, sentiamoli. Ucraina, siamo stati invasi, la NATO conferma, 1000 soldati russi oltre confine, Mosca nega, Renzi a Putin, intollerabile escalation. Video dell'orrore in Egitto, un gruppo filo Al-Qaeda decapita 4 prigionieri in Siria, giustiziati 250 prigionieri dell'ISIS. Renzi a colloquio da Napolitano, sul tavolo la situazione internazionale e i provvedimenti del Consiglio dei Ministri di domani. Sulla giustizia, trattativa aperta nella maggioranza, ma c'è ottimismo, trovate le coperture per il decreto Sblocca Italia. Vendite al dettaglio ferme a giugno, dice l'Istat, si salvano i discount, Poletti, nessun intervento sulle pensioni. Caos traghetti a Olbia, la compagnia Go in Sardinia chiude i battenti e 12.000 turisti dovranno trovare altri mezzi per tornare. Sorteggio Champions, l'Atletico Madrid per la Juventus, Bayern e Manchester City per la Roma, e alla Mostra del Cinema di Venezia ha presentato il docufilm sul campione argentino Leo Messi. 800 24 00 24, adesso riprendiamo subito con i vostri interventi. Avete sentito l'intervista a un Gaetano Savatteri per il premio Sciascia, questa polemica sul libro Malerba scritto da un giornalista, Carmelo Sardo, e da un mafioso in carcere, Giuseppe Grassonelli. E, insomma, pone qualche questione il fatto del libro inserito nella terna finale, perché si può perdonare fino in fondo un mafioso che ha fatto degli omicidi, che li ha pure rivendicati, che adesso si erge, dice, a paladino dell'antimafia, invitando i giovani a non seguire, diciamo, il suo esempio. Andiamo con Angelo, che ci chiama da Venezia. Buonasera. Salve, buonasera Alessio, Maurizi, buonasera. Io le faccio i miei complimenti per la conduzione. Grazie. Spero che non torni più il predecessore. Glielo dissi già a Taneto di Gattati col 7 di giugno, dove lei ha ricevuto un premio, no? Ah, era lei, adesso mi ricordo, una delle persone che ho conosciuto in quell'occasione, sì. Sì, vabbè. Sì, benissimo, così siamo più a casa. Ascolti, sì. Io ho preso tardi stasera il programma, però ho sentito pochissimo fa l'intervento di quel signore titolare di una ditta delle pulizie di Roma. Sì. E mi ha fatto venire in mente questo. Questo a onore del Movimento 5 Stelle, io non sono, come dire, sono un simpatizzante ma non un iscritto, poi ho 60 anni, voglio dire, so anche pensare con la mia testa, no? Ecco, nel 2010 a Cesena, io ci sono pure andato, sì. Grillo fece una sorta di Woodstock, no? Dove i ragazzi rimasero lì per 2 giorni, no? Sì. Su un grandissimo prato, così. E come andò? Andò, a proposito dei rifiuti, andò super bene, perché c'erano continuamente quelli che con le pinze, con il bastoncino, tiravano su spazzatura, no? Io so che quella spazzatura, e così penso che farebbero in una manifestazione a Roma, no? So che quella spazzatura fu raccolta, venduta ad una ditta chiaramente differenziata, no? Sì. La spazzatura, insomma, a una ditta di Vedelago. Vabbè, non so, ci fu accortezza dal punto di vista dei rifiuti in questo raduno di Cesena. Ricavarono sì? 6.000 euro. Sì? Questo a proposito solito del suo si quindi può potrebbe fare, questo, grazie per la citazione, potrebbe convenire addirittura al Comune di Roma, perché alla fine i grillini raccolgono i rifiuti, li rivendono e fanno la donazione. Va bene Angelo, grazie per questo racconto, perché è un precedente che può essere utile nella vicenda dell'assegnazione o meno del Circo Massimo al Movimento 5 Stelle. Ci ha chiamato, credo di aver capito bene, l'assessore di Trento all'ambiente, Mauro Gilmozzi. Buonasera. Buonasera. Perché ha sentito la sua omologa della Lombardia, sì, che non è stata tenera con voi. No, difatti, volevo proprio tranquillizzare lei, ma anche sì, gli ascoltatori, se ce ne fosse bisogno, rispetto ad alcune condizioni che vanno dette, perché altrimenti veramente insomma no, tutto diventa, tutto assume un'alea veramente negativa. Allora, la provincia di Trento è 15 anni che gestisce, ed è l'unica regione italiana che lo ha fatto, sì, il progetto Life Ursus. Il progetto Life Ursus è un progetto europeo, e con questo progetto noi abbiamo introdotto, abbiamo cominciato con una popolazione di 9 orsi che in 15 anni sono diventati più di 55 orsi. Ora, in questi 15 anni la provincia di Trento è stata attenta, li ha monitorati, ha messo i radiocollari, sì, ha firmato e ha costruito con il Ministero dell'Ambiente e con l'Europa dei protocolli. Va bene, protocolli fin qua, questi protocolli li ha firmati, sì, anche la regione Lombardia. Poi cosa è successo con l'orsa danisa? Scusi, perché questo i protocolli dicono una cosa molto, sì, semplice, che gli orsi, come altri animali, possono essere pericolosi o possono essere problematici. Mm-hmm. E in caso di problematicità, sì, o in caso di pericolosità, il protocollo prevede la cattura dell'animale. Questo animale è un animale che ha fatto un primo attacco 3 anni fa, è arrivato vicino alla persona e poi se n'è andata. Sì. Ne ha fatto un secondo 2 anni fa, è arrivata fino addosso alle persone e poi con una bastonata è scappata, quindi, e è andata via. Quindi voi dite un'orsa monitorata che ha perso in qualche modo, scusi assessore, mi faccia dire una cosa anche a me, ha perso il controllo, cioè un animale che va attenzionato perché non reagisce più in maniera diciamo pacifica e naturale. Ecco. Quindi scusi, no? Però scusi assessore, quindi sbaglia l'assessore Terzi della Lombardia dal suo punto di vista a non preoccuparsi di M25 che ha già sbranato 4 asini perché potrebbe farne delle altre di cose? Certamente sì, vanno monitorati, vanno seguiti con grande attenzione. Si sa che in tutto il mondo dove ci sono orsi un 3-4% della popolazione degli orsi presenta queste caratteristiche e bisogna essere pronti per intervenire, perché su queste montagne, no, ci vivono anche gli uomini e quindi dobbiamo avere attenzione anche per loro. Va bene, assessore, siamo arrivati a un punto di questa vicenda nella quale sappiamo molto più di prima e credo che lei abbia precisato. Grazie mille all'assessore Gilmozzi di Trento per averci chiamato. Avete sentito, insomma, la faccenda è ancora più, bisogna addentrarsi ancora di più. C'è un 3-4% di orsi, ha detto l'assessore, che possono ricadere in questi comportamenti più aggressivi. In quel caso è giusto andare a catturarlo e verificare. Giusi da Catania, buonasera. Buonasera, desideravo fare una riflessione in merito al premio Sciascia. Sì. E io ritengo che una persona che stia scontando le sue pene, di qualsiasi cosa si tratti, e comunque una persona che ha stretto le mani a diversi docenti in quanto si è laureato in filosofia, può anche in uno spirito di rinascita di queste persone che hanno fatto degli omicidi senza dubbio, però dopo 30 anni penso che abbiano fatto delle riflessioni e queste riflessioni sono state dettate e trasmesse in un libro alla mercé e quindi alla conoscenza di tutti quanti, possa essere accettato, anche premiato. Solo questo. Va bene Giusi, grazie per aver dato il suo punto di vista, tra l'altro dalla Sicilia. Non commento perché abbiamo già sviscerato un po' la questione con Savatteri, poi qua è questione anche di opinioni. Sergio da Torino. Buonasera. Buonasera. Io mio intervento riguardo gli orsi, pensavo a Yogi come nome, ma ha sollecitato un po' più di fantasia, quindi direi Placido. Placido, che bello, Placido per un orso che si è magnato 4 asini, che tanto placido non è, però va bene. Ma Io a volte mangio delle costate alla fiorentina che è notevole. Sì, però non va a procacciarsele ammazzando direttamente l'animale. Vabbè. No, cioè, mi sembra che ci sia il proprietario di Facebook che dice che lui non mangia niente che non sia stato cacciato direttamente da lui, quindi i comportamenti delle persone sono abbastanza vari. Io volevo dire questo, certo. A me sembra che siamo in una situazione come, senza mancare di rispetto agli Stati Uniti, un po' come quando i bianchi americani avevano chiuso nelle riserve i nativi indiani, i nativi pelle rosse. Noi abbiamo occupato tutto il territorio, quasi tutto il territorio, abbiamo chiuso la natura in piccole zone, e qui anche ci sarebbe un riferimento a una sua altra puntata dove parlava della tenuta di San Rossore, del raduno dei Boy Scout. E quando, una volta che abbiamo definito dei confini per la natura, per poter vivere, o meglio, per poter sopravvivere in qualche modo alla nostra invasione continua, dovremmo anche rispettare quello che resta. Pronto? È caduta la linea. Chi era? Sergio. Va bene, andiamo con Giovanni da Varese. Buonasera. Buonasera a lei. Prego. Da Busto Arsizio. Buonasera. Benissimo. Ok. Ci abbiamo tutto un insediamento di ascoltatori lì tra Varese, hanno chiamato prima Busto Arsizio. Lo so. Buonasera Alessio, buonasera a lei. Eccoci qua. Senta, Bitto, le piace? Bitto, è simpatico, è un bel nome. Che riferimenti ha? Cosa vuol dire? Il riferimento è al formaggio valtellinese. Giusto. Se fosse stata femmina l'avremmo chiamata Brasaula, però... No, direi Bitto. No, poi al di là di tutto, la considerazione è un po' anche questa, cioè qui il discorso è un po' quello, cioè si possono fare delle scelte, si possono fare delle così, si possono prendere delle decisioni, però quando si pensa di reinsediare una specie animale in un territorio. Sì, rapido Giovanni perché ne abbiamo parlato molto di orsi. Velocissimo. Allora, quando si pensa di reinsediare una specie animale nel territorio, prima bisognerebbe essere a conoscenza del territorio stesso. Quindi è evidente che un orso da solo va benissimo, in coppia anche perché magari si riproduce. Però se appena ci sono delle probabilità poi di rischio per altri versi, lì bisognerebbe pensarci prima oppure prendere delle decisioni prima in maniera tale che poi... Va bene Giovanni, insomma anche lei non sa più che pesci pigliare con questo orso perché abbiamo detto tutto e è contrario di tutto. Adesso aspettiamo solo qualche altro nome per poi chiudere la serata e assegnare anche il premio perché ricordiamolo al nome più originale, a giudizio insindacabile della redazione si può fare, vanno anche questa sera i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. Adesso invece andiamo al cinema. Fiorello? È irriconoscibile, è passato tanto tempo. Buonasera Roberta Bonazza, cofondatrice di Old Cinema. Ciao. Buonasera, ciao. Allora, soddisfatta? Vabbè, l'introduzione musicale, non so se è di tuo gradimento, Fiorello. Beh, piace sempre. Sì, piace sempre. Soddisfatta però della notizia, cioè del fatto che il ministro per i beni culturali Franceschini ha annunciato un censimento dei cinema storici. Tu che insieme ad altre persone tempo fa hai avviato un censimento, proprio ne avevamo parlato in Si può fare edizione weekend, proprio per cercare di salvare questa, come dire, possiamo definirla emorragia continua di bellissime vecchie sale cinematografiche che chiudono perché non ce la fanno più. Sì, è proprio così. Con Ambra Kaigro siamo partite in questa avventura che così dentro questo scenario effettivamente già oggettivamente visibile sulla chiusura delle sale, perché se pensiamo che dai fonti ANEC solo in 10 anni hanno chiuso più di 760 sale, di cui 60 solo all'inizio del 2012, e anche i dati del 2013 devo dire non sono così consolanti, incoraggianti. No, per nulla. E proprio in questi termini devo dire che abbiamo così ricevuto con grande soddisfazione la notizia che ha dato il ministro Franceschini, perché riteniamo che dentro questa grande frammentazione, sì, dentro questo vuoto di memoria, dentro qualcosa che spesso è solo nostalgia, ci sia veramente bisogno di un lavoro sul campo, di un lavoro concreto che possa effettivamente come dire, mettere in luce quelle che sono le sale che hanno un loro patrimonio, o perché lì è successo qualcosa di significativo per la collettività, o perché sono veramente un patrimonio storico-artistico per il loro valore architettonico, possano essere realmente salvate. Ecco, però io a questo punto inviterei voi o il ministro Franceschini a mettervi d'accordo, perché il censimento, caro ministro, c'è già, queste ragazze lo hanno fatto con questo progetto, magari non sarà un censimento all'altezza di un ministero che avrà tutti i finanziamenti e quindi potrà vedere le cose dall'alto, però insomma c'è già del materiale, quindi secondo me potete attingere tranquillamente. Però io ti chiedo, Roberta, che idea ti sei fatta con questo progetto? Cioè, è possibile salvare queste sale cinematografiche? Come? Perché chiudono? Guarda, veramente questa direi che è proprio la domanda chiave, perché anche noi ci siamo proprio rese conto lavorando sul campo della complessità che sta dietro questo argomento, perché da una parte appunto suscita la nostalgia, la parte ideale che si associa, no, al ricordo che ognuno di noi ha avuto all'interno di una sala da cinema, però andando sul campo ti rendi conto invece che c'è una complessità notevole, e che è proprio ad esempio il capire di chi è il cinema, perché molti di questi cinema sono stati abbandonati, i privati non hanno avuto, non so, il cambio di destinazione d'uso e non ne hanno fatto più nulla, altri cinema invece sono in mano ai comuni, che sarebbero nelle condizioni maggiori di poter mettere in moto tutta quella sinergia di competenze che servono per far rivivere un cinema, perché al di là del valore architettonico, simbolico e di memoria, poi per farlo vivere, per farlo respirare, perché torni ad essere un elemento importante all'interno delle comunità e delle città, lì abbiamo visto che la cosa si complica un pochino. Ci sono delle esperienze molto felici dove delle associazioni o dei gruppi di appassionati si sono proposti, sì, a chi aveva il luogo, e sono già partite delle esperienze molto molto, ecco, importanti. A questo proposito ti voglio chiedere, c'è un siete riusciti, non dico voi, ma insomma nel giro che avete fatto, il censimento che avete fatto voi, a salvare un cinema storico, una piccola storia magari che ci vuoi raccontare, almeno una? Ma guarda, allora noi abbiamo lavorato in particolare in Trentino su due cinema, uno che è il Cinecittà della città di Levico, di Levico Terme, che ha messo in moto un meccanismo che adesso è nato, ho sentito proprio oggi l'assessore di competenza per avere delle informazioni, e lì ad esempio è successo che grazie al progetto hanno chiesto la tutela di alcune parti storiche artistiche del cinema, no? Che sono anche quelle più, sì, legate alla memoria, e adesso ci sarà un concorso di idee proprio per vedere come e chi è più interessato poi a gestire. Speriamo. Poi? Ecco, poi l'altro cinema che abbiamo, dove abbiamo messo idealmente il nostro laboratorio di un cinema, che è una piccola sala, una monosala di 80 posti del 1912, che è il Cinema Impero di Arco, che devo dire viene utilizzata come sala chiamiamola polifunzionale, però siamo riusciti a introdurre qualche rassegna, incontri, convegni e cose varie, rassegne, va bene, va bene, tutti suggerimenti per il ministro Franceschini. Intanto grazie mille Roberta Bonazza di All Cinema, avete sentito, questa grazie. Era la storia, in bocca al lupo, continuate grazie così, a voi, grazie. Grazie, ciao. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare ed avere tanti soldi. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, 800 24 0024, abbiamo un ascoltatore che c'è alla provincia di Roma che si chiama Aguinaldo, è così? Buonasera, dottor Lei, ce la chiamo per nome perché sì. Vorrei... La sentiamo malissimo, Aguinaldo, proviamo a ristabilire il contatto, come si suol dire. No, non lo sentiamo. Andrea da Ferrara. Sì, buonasera. Prego. Volevo dire che sull'altopiano di Asiago, sì? Dove la gente va a funghi su Malga, dove vanno a comprare i formaggi freschi, dove le famiglie la domenica portano i bambini a fare la passeggiata, è due mesi che c'è un orso, e io non so perché nessuno chiama, nessuno ne parla, che una sera sì, una sera no, fa fuori due vacche tutte le notti. Una vacca costa 3.000 euro e le posso garantire che sono tutte cose vere, le in Veneto, a Vicenza lo sanno tutti. Però qua siamo, qua dove siamo, scusi, Asiago, ma siamo in Lombardia. No, no, no, provincia di Vicenza. Ah, in Veneto. Sì, sì, sì. E io sono sicuro al 100% perché io rifornisco queste persone qua di paglia e foraggio, hai capito? Ho capito. Due vacche, una sera sì e una sera no, ma non in mezzo alla foresta o a 3.000 metri, sì. Cioè proprio sulle malghe, dove la gente la domenica porta le famiglie. Adesso questi assessori, questa gente qua, è gente che è fuori dal mondo, non sa, no, di però cosa scusi, sta adesso, parlando. No, ma allora anche lei stia nel suo, perché qui abbiamo, sì, parlato del Trentino e della Lombardia, il Veneto ci manca come capitolo, quindi affronteremo anche questo, però non è che si può chiedere all'assessore della Lombardia di spiegare quello che succede in Veneto. No, ma anche lì gli ambientalisti, sì, hanno detto guai a chi tocca l'orso, nessuno lo può toccare, gliene dico un'altra se vuole. Sulle colline di Forlì, sì, hanno rimesso i lupi. Provate a chiedere ai cacciatori di cinghiali quest'inverno quanti cinghiali hanno fatto fuori. Non ci sono più cinghiali, allora lei mi deve dire. Perché se li mangiano tutti i lupi? Eh beh, ovvio che discorsi, i lupi ma mica lei, mangiano lei l'erba. Fa il cacciatore? Lei fa il cacciatore? No, io col mio lavoro giro tutti quei posti lì dove vado a riformare. Però guardi, se il cacciatore rimane un po' a secco, a me dispiace per lui, però vuol dire che si è divertito più il lupo del cacciatore. Allora lei, allora lei mi sta dicendo che vale di più la vita di un lupo che di un cinghiale. Per me vale. No, cosa c'entra, scusi? No, no, no, no, no, no. Lei ha detto che non ci sono più i cinghiali per i cacciatori, se li mangiano i lupi. E io ho detto si sono divertiti, sì, più i lupi dei cacciatori. Sì, quello sì. Però dico, se un ambientalista mi dice voglio mettere i lupi perché ci stanno bene i lupi, ok, ci saranno meno cinghiali, quindi ha capito cosa voglio dire? Cioè i lupi mangiano i cinghiali. Ho capito, ma i cinghiali, allora, i cinghiali rovinano le viti, rovinano le piante dei coltivatori. Quindi guardi, ne parli con qualche coltivatore che non mette chimica nel campo, che fa biologico, vero, io ne conosco almeno uno, e gli chieda a lui un lupo che fa fuori il cinghiale se non è contento, perché lui aspetta solo o i cacciatori che facciano fuori il cinghiale o il lupo, guardi. Beh, perché... Io spero, sì, di non incontrare, mi scusi se interrompo, io spero comunque... Io, dalla domenica, di non incontrare né un lupo e né un orso. Vabbè, tutto questo mi unisco al suo auspicio, alla sua speranza. Grazie, buona serata, grazie. Andiamo con Aguinaldo, che abbiamo recuperato nel frattempo. Ah, buonasera, dottor Maurizio. Dunque, siccome so che il tempo stringe, sarò brutalmente sintetico. Per quanto riguarda il gioco, io propongo Ursus. Ursus? È un bel nome, certo, Ursus. Cos'è? Vinco io, dai Alessio, vinco io. Aspetta, quindi un attimo. Ursus intanto perché... Perché assomiglia molto al nome dell'orso, no? Quindi, sì, sì, assomiglia moltissimo, infatti è quasi la stessa cosa. Ma cos'è, la versione latina, non lo so, cosa vuol dire Ursus? Sì, bravo, esattamente quella, no? Io ho studiato il classico, ho fatto la mia laurea in filosofia, quindi mi è venuto in mente spontaneamente. Cioè, Ursus. Poi sono un animalista, io ho 12 cani, 11 gatti e via discorrendo. Quanti ce n'ha, scusi? Cani e 11 gatti. 12 cani e 11 cani, tutti a casa sua o nei dintorni? No, vivo in campagna. Ah, vive in campagna. Sì, va bene, ma è... Con mio... sì, con cosa? Si mantiene? Col mio assegno sociale, 442 euro al mese dell'INPS. Cioè lei prende 400 euro di assegno sociale e mantiene anche 13 gatti e 11 cani? 12 cani e 11 gatti. Va bene, complimenti Aguinaldo, adesso vediamo perché. Grazie, no, Ursus, vabbè, poi lei sta a Roma, quindi mostra di Warhol, vediamo, però dobbiamo fare una selezione. Redazione, siamo quasi pronti per dire chi ha vinto, adesso poi comunicheremo il risultato. Rosario da Varese. Sì, buonasera, io volevo riportare la discussione sul tema del lavoro, riprendendo le parole dell'imprenditore che aveva iniziato la trasmissione. Interessante poter assumere a tempo indeterminato, io faccio l'imprenditore, conosco bene quali sono i problemi, ma conosco anche il problema del fatto che se quando un'azienda non ha visibilità, se non per poche settimane o per pochi mesi, difficilmente può, anche se vorrebbe, assumere a tempo indeterminato. Io rappresento anche un'associazione di categoria che rappresenta le agenzie per il lavoro e siamo orgogliosi di dire che quasi il 50% di chi transita attraverso un'agenzia per il lavoro, dopo quasi 3 mesi di contratto con noi, ottiene un posto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi era un consiglio anche per i giovani. Sì, sì, sì, ho capito. Cioè lei dice il lavoro interinale può essere un imbuto per poi per qualcos'altro. Non credo che sia molto diverso a quello che diceva Vanzetto, che a lui il lavoro interinale interessa fino a un certo punto, poi dopo quando vuole stabilità sceglie lavoratori con un altro criterio. Credo che ci stia tutto dentro. Comunque grazie Rosario anche a lei per aver chiamato. Ancora con Francesco da Pordenone. Sì, buongiorno. Buonasera Francesco, sì. Buonasera, è sempre difficile. Buonasera, buongiorno. Volevo dire un animale preciso che sarebbe il gruffalo. Il gruffalo è un animale che hanno fatto anche dei cartoni animati, comunque c'è in qualche... Cioè lei sta dicendo come nome per l'orso gufalò? Come nome per l'orso, sì, gufalò secondo me è molto bello, poi è così carino, timidino, però anche aggressivo, sa le zanne, no? E quindi c'è questa ambiguità, insomma, tra essere feroce ed essere quieto, no? Gufalò, perché il gufalò è un altro animale però. Che animale è? Vabbè, però cioè, effettivamente uno potrebbe anche avere paura dell'orso. Ho capito, Francesco, ma le ho chiesto sì. Capisco che dalle sue parti ce ne siano molti di gufalò, però io non ne ho mai visto uno. Cos'è un gufalò? Un gufalò dovrebbe essere un miscuglio tra un orso e qualcosa che abbia dei denti lunghi, perché insomma è un animale particolare. Ma lei è sicuro? Quindi è un animale un po' fantasioso. Sono sicuro al 99%. Insomma. C'è quell'1% che mi preoccupa un po'. Comunque l'importante era trovare... Potrebbe essere sbagliato, però un bellissimo nome. Trovare un nome. Va bene, grazie Francesco, grazie mille. Partecipa anche lei. Adesso, diciamo, stop alle telefonate sull'orto, perché dobbiamo chiudere tra pochi minuti e quindi poi dobbiamo decidere. Stefano dalla provincia di Trento. Sì, buonasera. Allora... sento tante cose molto folkloristiche, fa sempre piacere. Io conosco alcuni agenti forestali qua di Trento che fanno parte della cosiddetta squadra orso e quindi sono persone assolutamente qualificate. Loro cos'è che mi dicono? Mi dicono che l'orso ha bisogno di molto spazio. Qual è il problema che sta avvenendo qua in Trentino? Il problema è gli spazi, cioè si è introdotto un numero tale di orsi che non è coerente con gli spazi che possono avere. Quindi è chiaro che il contatto con l'uomo diventa frequente. Quindi l'invito all'autorità è quello di valutare bene il numero degli esemplari introdotti, perché chiaramente sono aumentati molto, da poche decine sono arrivati quasi a 40. Chiaramente concentrati in certe zone, quindi è chiaro che il contatto con l'uomo può avvenire, però l'orso, io ho avuto esperienze dirette, evita l'uomo normalmente. L'episodio che è accaduto, lei ha avuto esperienze dirette, ce la vuoi raccontare una? Diretta in Val di Genova, ero adolescente, fai una passeggiata, l'avevamo visto a 100 metri, ma lui tranquillamente ci ha ignorato, era grande, ne eravamo fermi, un gruppo di ragazzi, non c'era neanche degli nello sguardo. L'episodio è accaduto a una persona recentemente qua a Pinzolo, è perché chiaramente avendo i piccoli, l'orsa, come qualunque madre, difende i propri cuccioli. Chiaro, non è piacevole, per amor di Dio, però io ho più paura dei serpenti in montagna che non dell'orso, per capirci. Dove abito io ce ne sono due nel raggio di 10 km, ma non ho mai sentito un abitante della zona dire ho incontrato l'orso. si tiene ben lontano dalle persone. È chiaro che episodi di attacco a qualche asino di montagna, a qualche mucca, a qualche pecora c'è, per carità, questo c'è. Quindi lei è proprio nella zona di Pinzolo, dove... No, non di Pinzolo, no. Nella zona sopra il lago di Garda, dove ci sono 3 esemplari. Quindi lei concorda con quello che ha detto l'assessore della sua città, insomma, sul fatto che c'è una piccola percentuale di orsi, esatto, che se invece hanno comportamenti più aggressivi vuol dire che c'è qualcosa di strano e quindi vanno, certo, è giusto catturarli e vedere. Guardi, qua in Trentino c'è un parco, ho portato i miei figli recentemente, dove gli esemplari cosiddetti a rischio, che hanno comportamenti, diciamo, sì, un po' eccessivi, vengono messi per un periodo per vedere se quelli ritornano un po' la tranquillità. Chiaro che non è il massimo, però insomma... Grazie Stefano. Il numero è un po' eccessivo. Grazie, grazie, buona serata. Prego, buonasera. Andrea da Verona, credo per chiudere, buonasera. Buonasera. Io concordo con l'intervento del precedente ascoltatore, in quanto anch'io ho avuto direttamente l'esperienza di vedere gli orsi nel loro habitat naturale. Sì. Quando mi sono trovato a Mammoth Mountain in California, per un mese ho vissuto lì, e la città convive con gli orsi, addirittura con i cassonetti sono a misura di orso, nel senso che sono fatti in maniera tale che non li possano aprire e che vadano a procacciarsi il cibo in natura, come è nella loro natura, giustamente, perché altrimenti andrebbero magari a dove stare negli avanzi di immondizia fuori dalle case o nei cassonetti, e quindi non sarebbe più un animale, diciamo, selvatico, ecco. E quindi trovo una cosa assurda che la gente vada allo zoo, come c'è stato tutto il clamore dell'orso Knut 3-4 anni fa, se non sbaglio, e vada a vedere gli animali allo zoo e poi non si renda conto che è più bello vederli in natura, e che comunque se il comportamento dell'orso è stato in questo caso aggressivo verso il cercatore di funghi, è stato perché una madre orsa, come tutte le madri, se deve proteggere i propri piccoli, difficilmente si lascia avvicinare, si lascia carettare. Quindi penso che sia più un'imprudenza del personaggio che è arrivato a ridosso dell'orso che non fa. Anche lei conferma quello che hanno detto anche altri ascoltatori. Grazie, direi che è tutto per questa sera. Ci fermiamo qua. Dobbiamo dire chi ha vinto. Certo, in regia mi guardano. Certo, non mi sono mica dimenticato, ma siete pazzi. Allora, vince Angelica da Como, che ha dato nome all'orso M25 Bjorn. Ci è sembrato il nome più bello. Ecco l'applauso. Quindi noi, insomma, da Radio 24, come si può fare stasera, diamo così un suggerimento alla stampa, alle autorità della Lombardia, di chiamarlo anziché M25, questo nome in codice, ma il nome vero Bjorn, così come Danizza in Trentino ha un nome, anche l'orso valtellinese deve avere un nome. Il nostro nome è Bjorn. Menzione speciale però per l'ascoltatore che chiamava da Roma, che ha tanti gatti e tanti cani nonostante viva con una pensione bassissima, quindi una menzione va anche a lui. Grazie a tutti, buona serata, ci risentiamo domani 18:20 e 30. Ciao, ciao a tutti.